Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. A tutti e nella diretta speciale di oggi, vediamo un attimo, devo regolare i suoni perché è tutto più difficile oggi, perché abbiamo infatti una diretta a più voci, abbiamo degli ospiti in diretta. Magari lo avete già letto sulla pagina social l'annuncio, oppure ve lo ricordate da domenica scorsa. Ebbene sì, nessuno mi ha fermato e quindi sono andato avanti pazzerellamente verso questa co-conduzione di oggi. Ci siamo. Io direi di annunciare da subito i nostri ospiti che ci accompagneranno per tutta la puntata. Ne annuncio magari uno per volta. Sì, uno per volta. Allora, è con noi da due mesi ogni domenica. Qualcuno si è sicuramente affezionato. Diversi si saranno anche rassegnati, forse in pochi però si aspettavano che avrei davvero fatto la follia annunciata domenica scorsa, ovvero quella di invitarlo in diretta. Quindi tutti pronti a questo salto di qualità, o più verosimilmente a questo disastroso tracollo in un baratro profondissimo? È da oggi con noi, in diretta, Antonio Probo! Buona mela a tutti, ma che onore essere in questo baratro e portarvi in fondo, così in fondo, bellissimo. È proprio olderliniana questa cosa. Allora, io ti sento, vediamo se anche i nostri ascoltatori ti sentono bene, magari fatemelo presente sul pad. Intanto regolo di nuovo un secondo i volumi, davvero tutto oggi più difficile. Allora, Antonio Probo, avevo preparato per te degli applausi finti da mandare nel momento in cui ti annunciavo, però ho deciso di non metterli. Un po' perché mi sembrava eccessivo e un po' perché, diciamo la verità, te li devi guadagnare gli applausi, dai, te li devi guadagnare, sì. Ma un applauso non è mai eccessivo, non è vero. bene, benvenuto Antonio Probo. Allora, prima di annunciare il secondo ospite, direi, Probo, ricorda subito come ci possono le persone contattare in diretta, dai, vediamo. Perfetto, senza dubbio. Allora, al telefono, se non hanno il numero di telefono, però è bene anche che se lo procurino, soprattutto il mio, soprattutto... Insomma, sì, lo ricordo io, 380-831-9573 è il numero di Antonio Probo, potete scrivergli, sì. Esatto, priorità a ragazze, ma non per forza, anche insomma tantissimi ragazzi, uguale per me. Bravo Antonio Probo. Abbiamo altri modi di contattarci in diretta o ci affidiamo al tuo cellulare? Senza dubbio, pensarci? Sì, va bene, funzionerà anche quello, non ho dubbi. Ok, no, poi non so se ne so altri. Allora, sicuramente andare sul sito, che immagino che sia tipo www.wombat. www non ce l'abbiamo noi, ci sta sul cazzo. Ok, meno radiowombat.com/google. Assolutamente no, wombat.noblogs.org. E lì potrebbero i nostri ascoltatori vedere le nostre facce? No, nemmeno questo, no. Potrei... Ok, un sito senza facce è assolutamente inutile, però ci siamo d'accordo. Un sacco di immagini carine, però, un sacco di immagini carine. Allora, no, potrebbero i nostri ascoltatori usare il nostro pad. Ricorda l'indirizzo, provo. www.pad.com. No, il nostro pad si può trovare, allora, linkato sulla home del sito wombat.noblogs.org. Lì ci potete scrivere a me, a Probo, all'ospite che stiamo per annunciare. Oppure abbiamo da questa settimana un bellissimo nuovo sistema per poterci contattare, cioè per poter accedere direttamente al pad, che è l'indirizzo corto, attenzione, Rafanu, con la U, rafanu.vado.li. Stupendo, lo dovete assolutamente provare, vi collegherà direttamente al nostro pad e lì potrete contattarci in diretta, sì sì. Oppure cliccate su diretta Wombat sempre dalla home del sito, o altrimenti adoperate l'indirizzo email che Antonio Probo è? L'indirizzo mail di, scusa? Vabbè, ti licenzio subito. Allora, posta Wombat chiocciola insiberia.net, oppure ripeto... Cazzo, lo sapevo. Quello era famoso. Se no, rafanu.vado.li, lì mi raccomando, senza l'accento, vi collegherà direttamente al nostro pad. Oh yes. Antonio Probo, ti do l'ultima possibilità, che è anche un onore, l'onore di annunciare il nostro secondo stupendo ospite di oggi. Allora, innanzitutto ho avrei qualcosa da ridire sullo stupendo, a meno che non si tratti nuovamente di me. Siccome escludo il fatto che il nuovo ospite, a parte me, sia ancora me, è un mediocre, ma quantomeno medio, Andrea Ottani. Vediamo, ciao, vediamo. Ciao a tutti, amici, ciao. Wow, funziona tutto, che disagio, riusciremo a fare una puntata pazzerella. Funziona? Funzioni, un po' di musica. Chi è Antonio Probo, Andrea Ottani? No, chi è Andrea Ottani, Antonio Probo, più che altro. Va bene, proviamo con questa. Andrea Ottani, chi è Antonio Probo? Passo. Passi a chi? Passi a me o a Probo? Passo a Probo. Probo, chi sei? Vabbè, innanzitutto un ragazzo aitante, giovine e pieno di vitalità. Devo continuare? Sì, sì, per favore. Ok, allora diciamo autore in un po' in tutti i sensi, volendo anche... Volendo, sì. Simpatico. Vabbè, simpatico, che non è una professione, però è comunque... È una qualità, è una qualità. Non so se te lo ricordi, Pasquale Pratico, mi sta ricordando molto quel personaggio. Antonio, proprio te lo ricordi Pasquale Pratico? Io perfettamente. Assolutamente sì, tra l'altro lo salutiamo, se è ancora vivo, non sappiamo. Sì, è in gran forma, certo, come no, certo. Ma domanda, si può fumare qui? non si potrebbe, ma se non lo dici a nessuno, secondo me lo puoi fare. Sì, lo puoi fare. Lo farò anch'io. Ok. Allora, in sottofondo abbiamo gli AC/DC, che ricordo che comunque sono stronzi, perché c'è stato un grosso argomento di discussione qualche settimana fa nella diretta domenicale. Qualcuno ci ha ricordato di come Axel... No, sì, ciao. Marco, io ti devo rivelare una cosa. Ah, sentiamo. Sono stato io, Mario, a fare questa cosa. Ah, davvero? Posso confermarlo. Fosti te che avresti quel dibattito lunghissimo sulla non compagnaggine degli AC/DC? Esatto. Ah, wow, allora li metto. Confermo. Non l'abbiamo preparata questa cosa, giuro. Non l'abbiamo preparata. Ti faccio un po' salire, senti. Maestro Ottani, ti posso dare l'onore allora di ricordarci del perché? Perché sono un po' stronzi? Ah, perché mi chiedessi perché avevo suscitato questo dibattito, in realtà perché mi stavo annoiando molto durante il lockdown. È un'ottima ragione, però mi ha dato occasione di informarmi e di informare anche gli ascoltatori che Angus Young si è candidato, non mi ricordo quando, mi pare nel 2014, come governatore di non mi ricordo quale regione del sud dell'Australia col partito conservatore. L'Australia! Australia, bravo, grazie per il tuo contributo prezioso, certo. Australia, col candidato del partito conservatore che fra l'altro vinse, che fu anche l'ex presidente del Commonwealth, e che disse qualcosa esattamente tipo, disse un alto voltaggio porterà a tutti gli operai dell'industria automobilistica la candidatura. Chissà se ha vinto, fra l'altro più tardi vado a indagare. Sì, Australia. Australia, sì, dovremmo indagare sulla questione. A parte che ma lo sapevate che alcuni pensano che l'Australia non esiste? I terrapiattisti. Ah, oh, inizi forte, Ottani, inizi forte, ci porti un sacco di argomenti del genere oggi, vero? Io per esempio recentemente ho visto una conferenza di, per prepararmi doverosamente alla puntata di oggi, una conferenza dei terrapiattisti, fra l'altro, super divertente. C'erano all'inizio... Ci sei andato dal vivo? No, l'ho vista su YouTube, però presentavano, ti voglio raccontare questa cosa, presentavano alcuni documenti che dimostravano tutta una serie di cose, tipo che i siriani non sono bianchi ma sono neri, che il mondo non è curvo per causa della rifrazione, e facevano fra l'altro vedere un sacco di notizie che le prendevano dai siti fake, capito? Tipo il pattoquotidiano.it, lercio.it, e le spacciavano per vere. C'erano un sacco di giornalisti in sala e gli dicevano guarda è un sito ironico, e questi rispondevano ma queste cose ve ne accorgete, di queste cose ve ne accorgete, Sì, sono noti per essere dei grandi ricercatori, terrapiattisti. Dei grandi ricercatori, dicevo. Sì, certo. If you wanna rock and roll. Va bene, allora io direi di mettere una canzoncina di riscaldamento, dai, e poi partiamo, facciamo la puntata di oggi. La puntata di oggi, quindi, un po' di rassegna stampa, annunceremo e commenteremo un po' di notizie. Potete fare tutto... Scusami Mario. Sì. Perdonami, prego. È arrivata un'ansia perché qui dalla rassegna stampa di Antonio Probo succedono, sì, sempre cose, buona, no? Informazioni. Buona mela a tutti, un'ansia rapidissima, la leggiamo, sono quattro. Grazie. Parole. Emilio Fede ha 89 anni. Oggi? No, quest'anno. Bene. Chiudo. Pessima notizia. Era per la rubrica esagerazioni. Wow, commenterò così, wow. Allora, notizie come questa, e probabilmente anche di peggiori, sono quelle che sentiremo per la rassegna stampa di oggi. Una serie di notizie assurde, le commenteremo assieme. Raggiungeteci sul pad rafano.vado.li per aggiungere la vostra. Più avanti, andremo a fondo di terrapiattismo, ufologia, complottismo, sfingi, alieni, un sacco di cose bellissime col maestro, bellissime. Tenetevi forte, anche perché la Terra gira velocissima. Quanto veloce, Antonio Probo? Australia! Vai! E più tardi, per fortuna, ci riprenderemo con alcuni approfondimenti seri dalle iniziative di sostegno alimentare che si stanno svolgendo in città ormai da giorni, anzi settimane, a questa parte. Sarà una rubrica che porteremo avanti anche nelle prossime settimane, ma rimaniamo sul cazzeggio, dai. Canzoncina, Antonio Provo, tu hai una splendida, oddio, anche qua, playlist che ci hai fornito. Vogliamo metterne una delle tue o ne mettiamo una delle mie? Sentiamo un po'. Ma visto che tanto i tuoi contenuti sono per lo più fascio leghisti con AC/DC, sì, eccetera, mettiamo una delle mie magari, no? Mettiamo una delle tue, forse. Cosa mettiamo? Ma partiamo con sigarette. E vai, va. Sigarette di? È che non me lo ricordo. Ah, le feste Antonacci, questo duo meraviglioso. Chi? Antonacci? Danza. Le feste Antonacci, gruppo dedicato chiaramente alle feste che faceva Biagio Antonacci, un po' di bunga bunga del pop italiano negli anni 90. E le feste Antonacci sono questo duo romano, sono due jazzisti in realtà, romani di Stanza, però sono a Parigi, e hanno fatto un po' questo album meraviglioso e molto molto scherzoso, ma musicalmente fortissimo. Va bene, proviamo, dai, aggiudicato, le sigarette. Sigarette con gli amici, sigarette dentro letto, sigarette con signore, sigarette nel parcheggio con gli amici, sigarette, sigarette. Sigarette con signore, sigarette nel parcheggio, sigarette con gli amici, sigarette dentro letto con signore, sigarette, sigarette. Chi ci posso fare? Se a me mi piace di fumare. Con chitarra nel parcheggio, sigarette. Sigarette torna fuoco, sigarette fuoco spento, sigarette 1 e 4, sigarette 4 in 100, con gli amici torna fuoco, sigarette, sigarette. Sigarette litigato, sigarette fatto pace, sigarette ho sbagliato, sigarette mi dispiace, litigato mi dispiace, sigarette, sigarette. Chi ci posso fare? Sì, a me mi piace di fumare. Trombeta nel parcheggio, sigarette. Sigarette soddisfatto, soddisfatto, fatto tardi, sigarette. Sigarette guardo il cielo, sigarette mi domando guardo il cielo, sigarette, sigarette, sigarette. Chiudo gli occhi, mi domando, sigarette, sigarette. Allora, Antonio Provo mi fa notare che ci sono 2 minuti di strumentale. Io li lascio perché è uno spregio tagliare una canzone. Però ti do la possibilità di fare un commento, Antonio Provo, se vuoi. Ma il commento ho già fatto. Io volevo in realtà il tuo. Ma quanto è bello questo pezzo. A me piace tantissimo questo gruppo. Sì, mi è piaciuto parecchio anche a me. Noto anche l'accento parigino, tipico. Assolutamente tipico, il modo in cui dice cigarette, cigarette. Sì, sì, il de France. Ma chissà cosa fa il maestro Ottani adesso, tra l'altro. Ho fatto salire la musica, lo so che te non lo puoi sentire, ma... Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Musica strumentale, altresì detta musica pura. Aspetta, ti abbiamo perso, scusami, c'era il volume che ti sovrastava. Ripeti, maestro. Musica strumentale, altresì detta musica pura. Beh, commento del maestro, maestro. Inutile, inutile, inutile, pazioso, inutile. Maestro, maestro. Ma fra l'altro l'accento della E è chiusa o aperta? Lo dovrei chiedere all'Accademia della Brusca. Maestro o maestro? My baby back. Te come preferisci, maestro Ottani? Preferisco che non mi si chiami. Va bene, ottima risposta. E via, via, via con la rassegna stampa di oggi. Come ce la giochiamo? Provo una... Allora, aspetta Mario. Sì. Abbiamo, per sempre la rubrica esagerazione, è arrivata proprio orora un'ansietta. Certo. Un'ansietta rapidissima. Allora, questa rubrica esagerazione funziona così. Uno dà la notizia e gli altri, il pubblico anche compreso, dicono esagerato, capito? Vogliamo, volete provare un attimo? Prima la notizia, poi proveremo. Ah, ok, volevo fare una roba alla striscia notizia, capito? Vabbè, no, allora, la notizia è molto semplice. Dario Franceschini, salutiamo Darione. Calciatore del Valencia, ha detto 2 giorni fa, mi sto impegnando 24 ore al giorno per il cinema. Ho iniziato a ridere da mi sto impegnando. No, allora, un po' quel minimo di rispetto, non dico di educazione, Ottania. Io non so come commentare, però aspetta, lo sapevo, invece me l'hai detto. Uè, esagerato, uè. Cioè, capito, 24 ore al giorno. Io dico, ma cioè, ci rendiamo conto che, per carità, poi magari si sta impegnando davvero il bravissimo Dario Francesco, come si chiama? Vabbè. Chissà qual è il nome, chissà qual è il cognome fra Dario e Franceschini, vero? Esatto. Però ho detto, io ho pensato, quando ho letto questa notizia, ho detto, bello, ma sarebbe proprio da fare un documentario su lui che lavora 24 ore al giorno, perché, cioè, pensa che quanto è bello lui con delle occhiaie nere bellissime. E poi pensa, lo trasmetteremo però al cinema, potremmo fare tutto questo loop assurdo. Pensa però se avessi usato l'espressione 24H invece che 24 ore, oppure se avessi detto lavoro pancia a terra o una retorica del genere, sarebbe stato meglio o peggio? Sì, pancia a terra è molto bello, è molto bellissimo. Pancia a terra. Va bene, in sottofondo c'è Johnny Cash, anche se voi amici miei non lo potete sentire, gli ascoltatori invece sì. E se mi dai il permesso io inizierei con la rassegna stampa, se no ti do ancora spazio per le tue follie. No, no, io ragazzi, io tutto quello che ho è che mi arriva dall'ansia, io non faccio niente. Sia mai. Via, do io la prima notizia. Allora, pronti? Si intitola "Fermato per i capelli troppo in ordine". Sì, è scattata la multa per un parrucchiere di 50 anni di Rovellasca, in provincia di Como, e per il suo ultimo cliente, pizzicato dalla polizia locale poco dopo avere dato una sfoltitina ai capelli. È stata proprio la sua chioma, in ordine e ben pettinata, infatti, a mettere sul chi va là gli agenti di polizia comaschi. Si dice comaschi, Frobo? Sì, credo di sì. Comaschi, coi femmine, uguale. Beh, abituati gli agenti di polizia, evidentemente, ai capelli e alle barbe incolte, risultato, come sappiamo, della chiusura dei parrucchieri per l'emergenza coronavirus. Una volta fermato, l'uomo ha ammesso di aver fatto un salto dal suo barbiere di fiducia. I due dovranno pagare adesso una multa di 280 euro a testa ben pettinata. Per il barbiere, che aveva deciso di lavorare, senti questa, in barba ai divieti, Wow, esagerato! È scattata la multa, ma anche la segnalazione alla prefettura. Hai un'altra ansia per noi oppure vado avanti, lancia in resta come se non ci fosse un domani? Allora ce l'hai tutti oggi i modi di dire. No, in realtà non c'è nessuna ansia, però in realtà questa è una notizia che ho letto effettivamente qualche giorno fa, ora la riporto perché comunque è stata abbastanza importante. Un giorno fa è stato registrato un nuovo positivo in Umbria. È stato registrato? Un nuovo positivo al Covid in Umbria. Si sa che insomma gli Umbri, lo dicevamo anche domenica scorsa, sono certo. Assolutamente ultimi in qualsiasi gara, tra cui se anche la gara con la Calabria, ma sì, sono ultimi, sì. Sì, ma poi davvero gli Umbri non hanno mai, secondo me, neanche partecipato ad una gara, sono talmente tranquilli gli Umbri, senza offesa, io lo dico come, cioè, proprio tranquillamente. Poi io, capito, sono marchigiano, quindi non è che posso proprio dire tanto. Fu come quella volta che Alinghi, che ti tiro fuori Alinghi, che era la squadra di vela delle regate. Svizzera. Vero, me la ricordo, sì. Vinse Alinghi, vinsero gli svizzeri. Ti pare vinsero gli svizzeri la gara di regate? Pensate che follia. Erano svizzeri, ok, perché per un attimo stavo dicendo, ma che so, Umbri? No. No, sono svizzeri, però anche loro non c'hanno il mare, era questo il parallelismo. È vero. Non ancora, perché troveranno un nuovo sbocco verso la Spezia, vero? Ci risulta questo. O verso l'Umbria, magari. Sì, certo, ha perfettamente senso questo dialogo che stiamo avendo. Certo. Allora, nota che non ho detto neanche una volta Australia. No, l'ho notato, l'ho apprezzato. Allora, intanto ci scrivono sul pad, Provo. Ci scrivono sul pad a proposito di Franceschini e ci fanno notare che forse è per questo che musica, teatro, cultura non sta facendo un cazzo. Non c'ha più tempo nella giornata perché pensa sempre al cinema e su tutto il resto, evidentemente è troppo assorto riguardo al cinema per pensare a tutto il resto. Anche perché allora un neurone alla volta, ragazzi, mica poi ci dobbiamo stancare. Oh, compagno, ragazzi, lasciate stare il compagno Franceschini. Un'ansia rapidissima, proprio battuta ora. Sentiamo quest'ansia. Franceschini dice: "Wombat, andate a fare in culo". E ce l'ha con i mammiferi australiani, immagino. Sì, certamente. Mammiferi australiani rispondono: "Vacci te col tappo in culo". Allora, attenzione, ci scrivono anche... E poi volevo chiedervi, ma secondo voi, ma perché sono tutti fissati con i parrucchieri? Che c'hanno sti parrucchieri che non si sta parlando d'altro? È vero, non si sta parlando d'altro. Secondo voi, Pro Bottani, che ne dite? È la società delle apparenze. provo, sto facendo le risposte serie, Ottani. Che ridicolo, che ridicolo. Vuole fare bella figura con le ragazze a casa. I parrucchieri in più hanno i capelli, semplicemente, è chiaro. È chiaro. No, scusate, non l'ho capita, giuro. Nemmeno io, è per ridere per questo. È come quella storia di quello che entra nel caffè Splash, capito? Fa ridere. Fa ridere, fa sempre ridere. Oh, quanta gente che c'è sul pad intanto e ci sta seguendo. Allora, io che cosa voglio raccontare? C'è una seconda notizia. La posso fare una notizia vagamente seria? Me la gioco ora e poi non ne parliamo più, promesso. E vai. Sì, vagamente seria. Aspetta, voglio il permesso anche di Ottani. Prego. Grazie, Ottani. Allora, la seconda notizia che voglio dare oggi è presa dalla pagina Facebook di Santo Padre, di Marco Santo Padre, che è giornalista, autore della Sfida Catalana, un bellissimo libro. Io ho avuto effettivamente il piacere di leggerlo, che parla ovviamente del processo di indipendenza catalana degli ultimi anni, e che a Firenze questo libro è stato presentato due volte all'occupazione di PDM e alla Casa del Popolo del Lippi. Ora, nel suo articolo pubblicato su Facebook, Santo Padre va un po' a fondo dei dati che arrivano dalla Svezia, e a me sembrava interessante perché parla proprio dell'osannatissimo modello svedese. Ora, provo, per favore, lo so che ce l'hai sulla punta della lingua, ma risparmiati cose razziste o sessiste sul modello svedese, per favore. Non ho assolutamente nulla contro i norvegesi. Benissimo, del modello svedese ci stanno, come sapete, farcendo i telegiornali e i giornali imboccati da Confindustria, Confcommercio, eccetera, che spingono, anzi direi spingevano, perché ormai su questo fronte hanno assolutamente vinto su tutto, per la riapertura di imprese, di negozi e commercio. Questo articolo di Santo Padre però va a leggere con attenzione i dati e rivela una realtà diversa da quella che ci viene propinata. Io sintetizzerei un attimo l'articolo, ma lo ritenevo interessante, allora parla di questo. Dice: all'inizio dell'attuale emergenza sanitaria la Svezia non ha attuato alcun lockdown, affidandosi al senso di responsabilità della popolazione, a un certo distanziamento sociale tipico delle culture nordiche come la Svezia, vero e proprio. Infatti loro sono in lockdown tipo dal 1800. Sì, appunto, fanno con le slitte. Per favore, Ottani, risparmiamoci queste illazioni, davvero. Grazie, proprio, grazie che riporti serietà in questo discorso. Allora, l'idea per cui era stato fatto quello era ovviamente, davvero la faccio breve, quella di non punire l'economia, casticare l'economia del paese, come hanno fatto tanti altri paesi del mondo, accettando che il coronavirus mietesse un numero accettabile, diciamo così, di vittime, e che la popolazione sviluppasse, venendo in contatto con la malattia, la tanto decantata immunità di gregge. Dopo il primo periodo però di apertura totale, il governo di Stoccolma ha deciso di ridurre un po' le attività, nonostante che poi non siano state sospese cose come le scuole, le università. Ecco, e Santo Padre fa notare in questo articolo come la strategia adottata dalla Svezia ha in realtà funzionato solo in parte. Infatti, ad oggi, ci sono in Svezia, attenzione, circa 3.000 morti. Ora, sulle statistiche lo sappiamo che ci dobbiamo fidare fino a un certo punto, però è interessante vederle in relazione con gli altri paesi scandinavi. Secondo quindi i dati ufficiali, in Svezia ad oggi ci sono circa 3.000 morti di Covid contro i 500 della Danimarca, i 200 della Norvegia e i 250 della Finlandia. Questi altri tre paesi della Scandinavia hanno invece adottato le misure di lockdown consistenti, no? Hanno chiuso invece scuole, parchi, ristoranti, eccetera. Anche i dati in percentuale sono interessanti, secondo me. Infatti ci sono in Svezia 290 morti per milione di abitanti, 80 sono quelli della Danimarca, 40 quelli della Danimarca, 40 quelli della Norvegia e 45 quelli della Finlandia. Ecco, ora questi dati sono stati riportati anche un paio di giorni dopo dal sito, dal giornale Il Fatto Quotidiano. Ripeto però un attimo i dati in percentuale: 291 morti per milioni di abitanti in Svezia, contro 80, 40 e 40 degli altri tre paesi scandinavi. che fra l'altro sono di più di quelli degli Stati Uniti, che fra l'altro, come sappiamo, nonostante sia assurdo considerare il numero di morti assoluti per paese, sono di più di quelli degli Stati Uniti, che hanno una concentrazione di popolazione, soprattutto in certe aree, come era appunto quella newyorkese, assai maggiore di quella svedese. Di fronte a questo, in una conferenza stampa, Anders Tegnell, che è l'epidemiologo che sta dietro alla strategia del governo di non chiudere, ha commentato: è un numero spaventosamente alto. Sì, in effetti sì. Infatti non ha molto senso parlare di dati assoluti, in quanto nazioni come la Svezia e la Norvegia fanno un totale di abitanti che penso superi di poco quello di Scandicci, quindi... Sì, no, in realtà la Svezia soprattutto c'ha una decina buona di milioni di abitanti, sono fra l'altro quelli più popolosi, ma non quelli più densamente popolati fra i paesi. Anche se in effetti è vero, perché vabbè, c'è una puntata molto bella delle dita nella due puntate molto belle delle dita nella presa, che sono state che è la trasmissione di cose informaticose di un Piglio Acaro, con Piglio Acaro, che va in onda su Radio Onda Rossa, che parlano delle statistiche, provano a smentire le letture ufficiali che vengono date, facendo vedere come per esempio un paese come la Spagna, se in realtà fossero, ma cito un esempio su tutti, fossero in realtà quattro paesi diversi, se la Galizia, l'Andalusia eccetera fossero quattro paesi diversi, si parlerebbe di numeri assoluti assolutamente diversi, senza contare che poi non si tiene conto per esempio dell'età media della popolazione, non si tiene conto della densità di popolazione. Quindi è assolutamente sbagliato e direi fazioso probabilmente guardare i numeri in termini assoluti come si sta facendo adesso. Rimando volentieri però a quella puntata, a me è piaciuta molto e approfondisce l'inattendibilità della statistica, sì. Posso dire la mia? Sì, va bene, sì, dai, prego. È colpa della fica. Assurdo, lo sapevo. No. Allora, seriamente. Lo sapevo io che non... La fika, F-I-K-A, è una tradizione quotidiana in Svezia, cercatelo, informatevi, che costituisce un'istituzione sociale in cui si beve un caffè, solitamente accompagnato da un dolce, insieme ai colleghi di lavoro, durante una pausa oppure con gli amici o la famiglia. Fika, in Svezia... in svedese è appunto il ritrovo, la convivialità. È colpa della fica, ragazzi. Cioè, se googlo questa cosa trovo questo F-I-K-A, cercalo su Google. Anzi, riporto, c'è un articolo di Focus, che è il giornale tra l'altro che più leggo al mattino, perché stimola, dice, c'era un titolone Focus Junior addirittura, mi sembra, che diceva: per lavorare meno, viva la fica. Giuro. No, va bene. Io volevo dare dati in volevo parlare del numero dei tamponi. È stata una follia da parte mia avventurarmi in questo discorso. Ma ti ho aperto la strada. Grazie, ti ringrazio molto. Antonio, proprio antropologo. Sì, comunque, Ottani, visto che siete coinquilini, svelo anche questo retroscena. Gentilmente, puoi staccare internet, per favore? Te lo stacco anche a me, però. No. Ti faresti un favore, Andrea Utani. Forse temi il confronto. Va bene, tiro la conclusione, comunque. Sbagliato, dati alla mano, parlare di un modello svedese da imitare. Le voilà. Allora, comunque, ricordo l'articolo di Marco Santopadre, si può trovare sulla sua pagina Facebook, è interessante, assai di più di come lo si sta commentando noi. Nel frattempo, Probo. Eccolo. Ascolta, sul pad ti stanno scrivendo... c'è qualcosa, aspetta, lo riprendo. Vogliamo un aggiornamento su Calenda, grazie, qualcuno ha scritto. Okay, allora aspetta, ti puoi preparare, non ce lo dare subito, lasciaci nell'attesa, va bene? Intanto noi mandiamo la pubblicità, no scherzo, ovviamente scherzo, però siccome parlavo di Svezia, siccome stiamo parlando di fase 2 che sta arrivando, anzi direi che è arrivata, io vorrei chiedervi se voi avete imparato a lavarvi le mani, amici. Io ho imparato a lavarle ad Andrea Ottani. Va bene. Andrea Ottani, sei contento? Ce l'hai più pulite ultimamente le mani? tantissimo. Bene, grazie. E io invece ho preparato un paio di canzonette intonate alla qualità della trasmissione che stiamo facendo oggi, che ci insegnano a lavarci le mani. Io direi di metterle una dopo l'altra, ma non in sequenza, ma le mettiamo così, qua e là durante la trasmissione. Ne metto intanto una e poi le altre più avanti, va bene? Voi ascoltatele, magari accendete lo streaming su un'altra scheda del computer, così le potete ascoltare anche voi e non solo i nostri ascoltatori, e imparate un po' a lavarvi le mani, va bene? E poi dopo ti aspettiamo con il commento su Calenda, probo. Yeah. Sapone, lavandone, 3, 2, one! Mi sto lavando le mani, lo. Posso smettere ora? No. Uffa, mi sto stufando, sai che posso fare? Contare tutti i numeri che riesco a ricordare. 1, 2, 3, mi sono stufato di contare i numeri, è noioso. Allora elenchiamo gli animali. Tigre, lucertola, tigre. Mi vengono solo in mente due animali. Quanto tempo manca? Uff. Ancora 20 secondi, sono stuf. Ora mi invento delle parole per passare il tempo. Zobbo, clufo, sdramba, obo, bo. Ho forse quasi finito la canzone. Mi sciacquo le mani nello sciacquone. Cos'è quell'ombra misteriosa fuori dalla finestra? Ah, un tigre! Muoio con le mani pulite. Avete ascoltato, amici? Ce l'avete fatta a sentirla? Ho fatto casino qua. Io sì, lo sto ascoltando. Sono rimasto a 1, 2, 3. È vero, perché c'è il delay se ascolti in streaming. Va bene, ne metto un'altra, tanto durano tutti un minuto. E poi ci risentiamo ancora. Impariamo a lavarci le mani insieme. Io conosco molti più animali. Anch'io, in realtà. Anche molti più numeri, devo dire la verità. Le mani, dobbiamo lavare le mani con acqua e sapone, 40 secondi. Le mani, un palmo poi l'altro di qua e di là, incrocia le dita, non ti fermar, destra, sinistra, su e giù, continua ancora un po'. Un pugno poi l'altro, fai così, il pollice stringi qui e lì, dei cerchi ancora dobbiamo far prima di terminare. Le mani, dobbiamo lavar le mani, risciacqua, asciuga e batti pulite le mani. Allora, è stata apprezzata evidentemente soprattutto la prima canzone, che è stata considerata notevole oppure molto bella. La seconda invece più brutta, sono d'accordo, la seconda più brutta. Allora, mentre gli amici raggiungono i 30 secondi di ritardo che c'è nell'ascolto di questo, beh, io me le gioco tutte, va bene? Me le gioco tutte, già che siamo sull'imparare a lavare le mani. Ce n'è un'altra molto bella, secondo me molto bella, che è anche un bellissimo video, quindi vi consiglio poi di andarlo a cercare. È stata fatta sulla lezione, la bellissima lezione che ci ha dato Barbara D'Urso in diretta, si intitola Il ballo delle mani, via! Sapone, lavandone, 3, 2, one! Mi sto... ho sbagliato, ho chiesto lo stesso, aspetta. No, posso smettere ora? No. Vi spiego, anche se forse già lo sapete, io ho imparato come ci si lava le mani. Allora, l'igienizzare. Cioè? Fate così, guardate, io ho imparato questo. Palmo contro palmo, così, con tanto sapone. La sinistra sulla destra, la destra sulla sinistra. così e sfregare bene qui. Così, così, così, così, poi così, così, così, così, così, poi il pollice, un pollice, l'altro pollice e poi così, palmo contro palmo, destra, sinistra e poi così, poi il pollice, un pollice, l'altro pollice e poi così, chi si sciacqua le mani con il gomito e poi così. Tutto questo ovviamente con tanto sapone, poi bisogna, guardate, così. Palmo contro palmo, così, con tanto sapone. La sinistra sulla destra, la destra sulla destra, così. E sfregare bene qui, qui e poi qui, così, poi così, così, così, così, così. Il pollice, un pollice, l'altro pollice e poi così. Palmo contro palmo, destra e sinistra e poi così. Poi il pollice, un pollice, l'altro pollice e poi così. Possibilmente anche il contrario per un minuto. Così. Questo nel mio piccolo, insomma, ho voluto rendervi partecipe di quello che faccio io quotidianamente più volte durante il giorno. La sinistra sulla destra. E poi dice la destra sulla destra. Nel frattempo c'è chi commenta: ma sono stupende queste canzoncine, le voglio anche io. Sì, amico, che commenti, poi più tardi metto il link. Effettivamente sono stupende, anche molto didattiche, molto didattiche. A te che sei professore, fra l'altro, probabilmente possono essere anche molto utili per fare una lezione su questo ai tuoi studenti delle superiori. Beh, mille messaggi assurdi, non li leggo tutti, però intanto c'è anche chi dice hit dell'estate, però mi viene un po' da piangere. In effetti, hit dell'estate, cumbia, avanti, la destra sulla destra. Va bene, ora che siamo molto più avveduti su come si deve affrontare la fase 2 e quindi come lavarsi le mani, di cosa vogliamo parlare? Io sono pieno di argomenti, eh. Ah no, scusa, Antonio Probo, avevi promesso un aggiornamento su Calenda, te l'hanno chiesto. Eccolo. Allora, ragazzi, a me dispiace tantissimo, ma ho cercato ovunque news su Carlo Calenda. Sembra che non sta dicendo niente. Io penso che non abbia raggiunto la fase 2 quest'uomo. Non sta dicendo nulla. Io non so cosa inventarmi. Posso però comunque farvi ridere riguardo Calenda in altra maniera, ovvero cercate per favore su Google, se non l'avete mai fatto, io è una cosa che più o meno una volta a settimana faccio sempre, cercate Calenda costume da bagno, vi apparirà su Google, fatelo anche voi in diretta qui con me. Etichetta, se... Calenda costume da bagno, c'è una foto di Carlo Calenda su una marana, una fiumattola, che cazzo ne so, con un cigno, ed è bello. Ve lo ricordate? E Calenda con il cigno, un bruttissimo anatroccolo, ma diventerà anche lui un cigno, secondo me. No, è un bellissimo cigno, non è vero? È un cigno bianco, molto elegante. Sì, sì, no, dicevo povero Carlo. Ah, scusa, Carlo è il bruttissimo anatroccolo che diventerà un cigno. Bene, il mio amico professore ufficializza che domani farà le lezioni su questo. Bene, finalmente un po' di scuola utile, finalmente. Allora, vediamo un pochino quali sono le doti di improvvisazione di Antonio Probo. Non che questo fosse in alcun modo preparato, quello che abbiamo detto fino adesso. Aspetta. Sì, prima delle doti di improvvisazione... ci sarebbe un'ansa velocissima, rapidissima, del 10 luglio 2019. Molto attuale. Sì, Berlusconi ha detto il 16 luglio 2019: ho la mano fasciata, sono caduto giocando a pallone. Ora sono pronto per tutte le tue quiz del cazzo. Aspetta, ho alzato la musica, non si è sentito, ripeti. No, dicevo, ora sono pronto invece per le... Ma spero che il maestro Tani voglia dare una mano comunque, non so davvero cosa mi sta succedendo. Certo, certo, sono qua. Attenzione, intanto mi hanno preparato una nuova... mi hanno segnalato una nuova canzone sul lavare le mani, ma magari credo almeno, perché c'è soltanto un link da invidio, ma lo mettiamo fra pochino. Nel frattempo... Sì, stupriamo ancora un po' la musica. Sì, facciamo ancora un po' di violenza. Allora, Antonio Provo, Andrea Ottani, se io vi domandassi... Allora, facciamo un gioco, invito anche gli ascoltatori, suggerite cose possibili, soprattutto se rispondono in modo divertente, se no lo chiudiamo qua. Il gioco si intitola E se il 2020 fosse? Quindi, e se il 2020 fosse? E diciamo delle categorie, delle cose che potrebbe essere. E sentiamo come... Bellissimo, voglio giocare. Ti piace questo gioco? Vabbè, se gioca lui, gioco anche io. Vabbè, chissà chi gioca prima. Chi se la sente per primo, gioca prima, va bene? Facciamo così. Ad esempio... Ma aspetta, tu dai le categorie? Sì, oppure i nostri ascoltatori ce li possono scrivere sul pad rafanu.vado.li. Rafanu con la U. Io però vi do le prime due o tre, vediamo come ve la cavate. Ad esempio, e se il 2020 fosse un animale? Quale animale sarebbe? Un cigno. Vabbè, è l'ultimo animale che hai sentito, sì, non ci hai pensato neanche. È vero. Ne sono moltissimi gli animali, aspettate ragazzi. Capito, lo a calenda dico io, e niente. Perché è l'ultima cosa. Allora, vi do qualche secondo. Se il 2020 un animale... allora, sicuramente è un animale... grosso e lento, secondo me. Bradipo? Infatti stavo pensando a un misto tra un bradipo e però un elefantiaco, capito? Adinolfi! Dai, un adinolfi sarebbe. Sì, adinolfi. Ottani ha detto un cigno, vediamone un'altra. No, ma io non lo trovo sul Pokédex adinolfi, come si fa? Devi scriverlo con la X finale. Ah, ecco. E se il 2020 fosse una band musicale? Ah, questa la so io. Sentiamo. Sarebbe ovviamente i The Cure. Ah sì, va bene, bravo Ottani, in forma, molto in forma. Bravo, molto bravo. E allora io risponderei con invece un bel gruppo italico, ma secondo me anche direi Federico Fiumani solista, un po' capito, un po' mogio, un po' che non capisce ancora. Ma pronto, ma una grande Federico Fiumani lo becco sempre sul 17. Sì, ma comunque non li annunciate troppo, Diaframma, che poi si rinnamora subito la nostra bobina della radio e inizia a mettere 3 canzoni ogni 4. Ho sempre avuto un po' paura a parlargli sul 17 a Federico. Sapevo bene che dirgli. Io invece tutte volevo le volte che lo complimentare. Io invece ogni volta che l'ho visto mangiava sempre, cioè d'estate, che aveva sempre un gelato, vi racconto anche questo scoop, cioè che ormai si parla di Fiumani, aveva sempre il gelato al pistacchio, l'avrò visto 5 o 6 volte col gelato al pistacchio, deve essere il suo gusto preferito! Ah, facciamo questa, e se il 2020 fosse un gusto di gelato? Pistacchio! E vai! No, io ce l'ho. Il gusto? Gelato sarebbe tipo uno di quei gusti un po' allapposi che persistenti, direi tipo un nocciola, una roba simile. Nocciola a me mi piace, non... è buono nocciola, è molto gustoso nocciola. Sì, però ti resta lì, capito? Ma non nocciole turche proprio... di quelle fatte dalla Ferrero e così dai soldi a Erdogan che merda bombarda i curdi, di quelle cattivissime nocciole. Sì, che li bombarda con le stesse nocciole. Con i noccioloni. Ma scusa, perché non ti piace il 2020? No, un anno brutto. Infatti c'è che per esempio che mi risponde che sarebbe uno scorpione, oppure che sarebbe un panda in via d'estinzione, oppure anche chi risponde che sarebbe un insetto stecco, perché fanno schifissimo gli insetti stecco. Anche a me fanno un po' schifo, devo dire la verità, gli insetti stecco. Ma non quanto ad Inolfi, comunque. Riguardo al gusto, invece, c'è chi dice sarebbe gusto merda, come tutti gli anni, gusto merda, con due M. Oppure, vi faccio l'ultima e poi andiamo oltre, ma ci ritorniamo sopra, perché mi sembra un filone aureo questo. E se il 2020 fosse un modello di auto? Dio, questo è di Multipla. Multipla, sicuramente Multipla, anche secondo me è Multipla. Anzi no, cambio, posso cambiare. Multipla è mia, posso... allora, sì. Come si chiama quella macchina al cazzo? Sempre la, tipo la Fiat Idea, quella bruttina un po' anonima. Secondo me Fiat Idea. La Fiat Idea di merda. Sì, sì, è proprio un'idea, era proprio un'idea del cazzo. Di sì, direi quella lì. Va bene, volete l'ultima o andiamo avanti? L'ultimissima. E se il 2020 fosse un frutto? Fosse un frutto... forse direi il cocco, ma solo la parte esterna. La buccia del cocco. La parte esterna delle castagne, se no anche. Il diospero, altresì detto cachi. Sì, apprezzo molto il fatto che tu abbia usato l'accezione la versione fiorentina del termine. Che sicuramente avrà una radice latina, e anche questa andremo a indagare con l'Accademia della Brusca, sì. Ottani, solo per te, ma se il 2020 fosse un comico? Puoi non rispondere, la sappiamo tutti la risposta. Antonio Calenda. Si chiama sbagliato. Si chiama Antonio di nome Calenda? Carlo. Antonio Probo, ovviamente. Va bene, tocca a me di nuovo con le notizie. Sì, ovviamente. Tocca a me di nuovo con le notizie. Siete pronti, amici? Oppure abbiamo un'altra ansia? No, tocca a me. Allora, ci sarebbe uno dei miei siti. Prego. Posso parlare anche dopo, scegliamo. Da papaboys.org, una piccola notizia del giorno. Sì, un sito di Boy Scout, no, di quelli della CNG, come si chiamano quegli altri? Sì, insomma. Boh, Papa la Boys. Jeshi. La Jeshi, bravo Ottani. Bravo, ma è maestro. Incredibile. No, ci sarebbe, in realtà non è una notizia, anzi è solo una constatazione. Oggi è il 10 maggio e il santo del giorno, che noi lo sappiamo, no, ci tengo particolarmente al santo del giorno, è San Cataldo. Sapete, Andrea Ottani in particolare, ma anche caro Mario, lo sapete, perché entrambi dovreste saperlo, qual è la città che protegge San Cataldo? Certo. Penso una che sia Lecce. Quasi, una città in Puglia che Foggia, Mario Foggia, ama, Foggia. Che no, Bari, ama Bari. Mario ama Bari. No. Allora, quale può essere? Taranto, ovviamente. Ah, sì, certo. Beh, gli ionici sono gli ionici. Come no? Allora, oggi è San Cataldo, che era un santo irlandese che approdò, chissà perché si chiama Cataldo, comunque non ce lo chiamo, che approdò a Taranto annissimi fa, e una particolarità importante che i Papa Boys ci vogliono dire è praticamente che lui era diventato vescovo di Taranto, no? Sì. E a un certo punto però che cosa è successo? Il buon Cataldo, che ancora chiaramente non era santo, a un certo punto disse: no ragazzi, basta, devo andare in Terra Santa. Ma lo sapete quale anno era? Era esattamente il 666. Lui nel 666 dopo Cristo viaggiò in Terra Santa, non tornò più perché è schiattato. Ma io dico, Catà, ma nel 666 ti sembra il momento di intraprendere un viaggio così importante verso la Terra Santa? Vuoi prendere per il culo qualcuno? È stata palesemente una follia, non c'è dubbio. Morto, San Cataldo, morto. Ecco, questo è il santo del giorno, un morto, ok? Comunque, grande onore alla maglia rosso-blu tarantina, grande onore alla birra Raffo, viva Taranto! Allora, tocca a me di nuovo con la notizia adesso però, eh? Tocca a me di nuovo con la notizia, vi voglio raccontare, aspetta, prima metto un po' di basi perché sennò qua i cannedetti a un certo punto finiscono. li lascio a diritto per sempre. Allora, ora vi voglio raccontare la storia di due ex cani poliziotto. Sì, sì, torniamo in Australia, dove siamo partiti con gli SDC. Anzi, quasi quasi rimetto gli SDC io. No, vabbè, lo faccio. Australia, torniamo in Australia. Torniamo in Australia della storia di due ex cani poliziotto. La prima è la storia di Gavel. Gavel era un pastore tedesco poliziotto. Cioè non tedesco, nel senso era la... Non so se si è capito, era il modello di cane. Ratzinger! Pastore tedesco. Era il pastore tedesco della... L'ho perso. Sto cliccando. Eccola lì, Gavel è il pastore tedesco poliziotto, licenziato perché è troppo buono. Infatti siamo nel Queensland, in Australia. Il giovane cane Gavel era destinato a diventare un cane poliziotto, come del resto accade a molti altri della sua stessa razza. Però, durante il suo addestramento, gli educatori cinofili hanno capito che Gavel non aveva la stoffa per diventare poliziotto. Infatti, a Gavel non importava un cazzo di nulla di scovare gli oggetti illegali o di superare le sfide di destrezza. A Gavel importava soltanto delle coccole e delle carezze. Insomma, Gavel era troppo buono, troppo giocherellone e non poteva diventare un cane poliziotto. E fu così che Gavel, continuo a ripetere il nome perché mi piace, fu licenziato. Ma niente paura, perché Paul Jersey, che è il governatore del Queensland, ha deciso di adottare Gavel. Ed è così che Gavel è diventato oggi il rappresentante a quattro zampe dello stato del Queensland. E infatti, se andate su internet, ci sono un sacco di foto di Gavel che se la brasa alla grandissima, con la bandiera del Queensland sulle spalle a mo' di mantello, sì. Gavel è uno di noi. Gavel uno di noi. Uno di noi è anche Ozzy, che è un altro cane poliziotto australiano che di fare lo sbirro non ne ha proprio voluto sapere. E infatti anche Ozzy è un pastore tedesco e, come il suo non collega Gavel, era troppo buono e non aveva il carattere giusto per correre dietro ai criminali. Perché a Ozzy piaceva molto di più correre dietro alle palline. E infatti sì, per questo Ozzy è stato licenziato. E che fine ha fatto il buon Ozzy? È stato assunto dall'aeroporto di Brisbane, col compito di rincorrere e cacciare gli uccelli dalle piste dell'aeroporto. E stando a quanto dice il suo nuovo proprietario, tale Jackson Ring, Ozzy ha finalmente trovato la sua strada. Lunga vita, compagno proprietario Ozzy. Vabbè, l'hanno semplicemente cambiato di reparto. Sì, ma non è che fa lo sbirro. Oddio, un pochino sì. Però non fa le perquise. Corre dietro agli uccellini. Non capisce nemmeno tanto bene che sono uccelli. Antonio Provo, se non hai niente da dire, la prossima notizia ce l'ho pronta per te, eh. Vadi pure. Allora, la prossima notizia l'ho presa da Libero, nostro quotidianone nazionale, bellissimo, Libero. Notizia molto recente e racconta di come Massimo Giletti, o Gelletti, come lo chiamava Capanna, vi ricordate la grandissima diatriba che hanno avuto su Rai 1 con Capanna, ha buttato il libro di Capanna, di Mario Capanna, dicendo sei uno stipendiato dallo Stato. Il conduttore Gilletti ha dichiarato che sì, ha i busti del Duce a casa. Ebbene sì. Ed è finita qui la notizia. Però Gilletti che dice sì, sono opere futuriste, degli artisti futuristi, intanto si becca i busti di Mussolini così sulla libreria. Un'operina molto sobria, molto amabile. Ma pare che anche viceversa, che Mussolini avesse dei busti di Gilletti, certamente. È arrivata un'ansia. Prego. Da USA, dal Queensland. No, Queensland non è USA. Queensland è in Australia. Sì, ma... Australia. Lo so, volevo soltanto dire Queensland. Non c'è dubbio. Va bene, dai, zitti. Allora, USA, allarme per i COVID party. Sapete la storia dei COVID party? Avete sì, letto? Sì, che bella. Esatto. Allora, allarme folli, per i COVID. Cazzo. Follissimi, totale. Allarme per i COVID party. c'è il rischio, dice il presidente Trump, di non riuscire ad avere abbastanza contagiati per rispondere alle richieste. Rischiamo di non farle tutti questi party, è un problema. A voi studio Marius. Grazie. Musica. A proposito di musica, vogliamo inframmezzare con una canzoncina? Una canzoncina e poi torniamo fra noi? Io, fra l'altro, vabbè, dai, ci avrei un altro paio di notizie serie, ma non mi sembra tanto l'aria di darle. Le rimando tutte alla prossima settimana. Sì, sì. Un minuto di silenzio per quelli che si sono iniettati il disinfettante endovena. No, ma non ci sono. Ma dai, non ci sono, è soltanto... No, dai, impossibile. Dimmi che è impossibile, però, per favore. 14. 14 persone. Si sa quanti sono. Io sì, non sì. ero tra questi. Sono arrivati i dati dagli ospedali statunitensi. Giuro, sono, ragazzi, andate a vedere. Sono sopravvissuti? Sì, però tipo sono stati parecchio male, mi sa, Può capitare, ragazzi, è inutile fare, fare del buonismo post-ineptudes. Sì, no, ascolta, non ha senso quello che stai dicendo. Va bene, rimandiamo le notizie serie la prossima settimana. Mettiamo una canzone e torniamo un attimino a cazzeggiare, dai. Cosa mettiamo, proprio? Ho tempo per andare in bagno? Sì, anch'io voglio andare, quindi se non basta ne metto due. Vediamo, se è abbastanza lunga. Quale scegli? Quale scelgo di cosa? Di quelle che mi hai dato. Quali ti ho dato? Dai, allora te le leggo. Mi hai dato roba che si chiama Cimbecchio Martina. Comunque Martina, artista romana, salutiamo, bravissima, elettropop, ascoltate. Vai, andiamo. Bravissima, fai una, sì, fai, sì, una di quelle molto bella. Sì, confermi Ottani? Confermo, confermo. E che sia. Se non basta, a seguire i Subsonica. Speriamo che basti. Poverino. Sola. qualcosa fuori dal normale. Molto semplice. Come si chiama questa voglia di vivere? Che nel suo corpo ha bisogno di espandere. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Occhi bionici, più adrenalina, sensori e cibernetica neurale. Sogna una carne sintetica, microchip emozionale, labbra cromate, ricordi seriali, emozione, nuovo impianto sessuale, e senza più mangiare, e senza più dormire, e senza più mangiare, e senza più dormire. Ah, Aurora sogna, lì sulla soglia della sua casa, da un'ora sfoglia le pagine delle sue notti, da cui scappa sempre. Fa luce ma per i suoi mostri non ci sono tende per ripararla. Fuori brucia l'alba, vorrebbe un cuore sintetico ma non ne parla. È un sangue che non è un fluido, è come battito un cortocircuito. Le stesse facce di ogni giorno fanno male, le stesse voci recitanti giudicare. Posa l'orecchio sul bicchiere, sente il male. Amici, ci siete? Ciao belli. Ehi là. Eccolo, sì, ci sono anche io. Allora, io ho rimesso gli SDC, ora che abbiamo risolto questa questione, l'ho rimesso. Va bene, io davvero avevo delle notizie serie, ma assolutamente non è il caso di darle oggi, quindi rimando agli approfondimenti, le rimando come approfondimenti per le prossime settimane. Con questo ci saremo anche le prossime settimane. Dipende, dipende. Come la settimana scorsa io. Sì, secondo me potremmo comunque. Se vogliamo smetterla di fare un po' di serio approfondimento. Sì, sì, potremmo. Potremmo in effetti. Una sì, una no? Patteggiamo? Ma basta che in realtà mi metti a un certo punto il muto. Io sì, devo imparare a farlo. Antonio Probo, secco, che cosa ne pensi di quella questione degli aperitivi sui navigli? Allora, aperitivi sui navigli, questione seria, questione seria. Questione ragazzi, annosa. Annosa, annosissima. Allora, aperitivi sui navigli, a parte, vabbè, te sai la mia passione per gli aperitivi, quindi io per i navigli, che di... Anche no, no, i navigli non me ne frega un cazzo. No, vabbè, no, mi piacciono anche un po' poco la i navigli, ma naviglio. Vecchio naviglio, no. Ah, Bauzelle forse? Sì, cazzo, una canzone da... Vabbè, dai, dopo la dico. Una canzone da? Tipo da bambini, oppure storica tipo Rita Pavone, una di quelle cose... Beh, una canzone ridicola, i Bauzelle sì. Hanno fatto solo canzoni sulle rane, sui pesci, cioè... Vabbè, fantasmi, comunque. Sì. Sì, è vero. No, comunque dicevo, a parte, sai insomma come la penso sugli aperitivi, quindi mai che andrei contro... a mio avviso, tutta questa roba dei navigli, di fare degustazioni di acqua di fiume, io non sono assolutamente d'accordo. Giusto. Perché alla fine? In questo clima, poi, tra l'altro, non sono assolutamente d'accordo. Giusto. Hai finito? Sì, assolutamente sì. Grazie per il tuo prezioso contributo, grazie. No, e poi non so assolutamente... stavo per dire di degustazione di acqua dell'Arno, però mi sa che l'Arno ai Navigli non c'è. Perché il fiume di Milano, sappiamo tutti che è... Il Naviglio. Il Naviglio! Lava Milano. Come Ottani ha alzato la musica, non si è sentito? Lava Milano. Come quella... Com'era quella barzelletta dei piccioni che volavano, no? Guarda Milano. Va bene, mi sembra che più in basso di così forse non si possa andare. O forse invece... Sì, possiamo, possiamo. Secondo me comunque è quasi il momento del maestro, eh? Secondo me... Io volevo prima di tutto lodare la linea vocale della prima delle due precedenti canzoni, un esempio di linea vocale davvero strepitosa. Provo, concordi? Assolutamente, non ho sentito bene, la linea vocale di comunque Martina, il primo pezzo dicevi? Esattamente. Ok, tra l'altro ho detto che è un'artista romana. È una totale cazzata, è di Monza, è lombarda, anzi Brianzola, che poverina, magari sì, non c'entra niente, è in piena terra di Covid. Grandi saluti a comunque Martina, che mi raccomando si scrive K-M-K, è tutto rigorosamente piccolo, ci tiene particolarmente. Certo, anche a pronunciarlo in quel modo. Assolutamente sì. Senti, allora, io prima del maestro Ottani, perché dicevamo appunto della possibilità di non scendere più in basso di così, e invece possiamo. Abbiamo, qui su Radio Wombat abbiamo questa capacità. Allora, ci sarebbe una piccolissima rubrica, molto rapida, prima poi ci tagliamo sul, la linea, dedicata poi. al giorno 10 maggio, che è la festa della mamma, no? Ah, e tremi, vero? Mi sento tremare. No, sto pensando. No, è l'8 maggio, ragazzi. Ma no, allora, te ti sbagli con l'8 marzo. Sì, è vero, si sbaglia con l'8 marzo, sì. Ho controllato prima. Io ho fatto gli auguri a mia madre 2 giorni fa, allora. Ma forse è giusto, io non lo so. Allora, il signor Google dice 10 maggio. Vabbè, comunque, volevo, ecco, fare che una piccola... Che ingrati siete, comunque. Assolutamente ingrati. Boh, è già tanto che mi sono ricordato, eh. Sì, sì, è vero. Assolutamente ingrati, comunque. Dicevo, essendo, a parte festa della mamma o non festa della mamma, il 10 maggio pensavo di fare, ecco, un brevissimo riassunto in 3 fasi di tutto quello che è successo alla storia dell'uomo il 10 maggio, molto, se me lo concedete. Molto interessante. Aspetta, Ottani, glielo concediamo? Sì, vai. Sì, prego. Allora, la durata media sono 6 ore e mezza, però cerchiamo di ridurlo in meno di un minuto. Ascolta, allora, così la situazione. Alle 21 vogliamo mandare l'approfondimento serio. Abbiamo mezz'ora ancora di stronzate, però io voglio sapere dal maestro Ottani approfondimenti sulla Sfinge, i motori interstellari. Anch'io, assolutamente. No, infatti, ecco, facciamo questo brevissimo riassunto di quello che è successo fino al 10 maggio 2020 a partire dai Sumeri, dai Babilonesi. Benissimo. Allora, in particolare... Com'è? No, prego. Ok. Allora, in particolare, siccome dei Sumeri e dei Babilonesi non ce ne frega un cazzo, arriviamo subito al 1503, perché noi siamo europei, quindi andiamo a conquistare, no, i popoli, giusto? Imperialismo, quindi, pure. Colonizzazione, esatto, quindi, direi, no? Sbagliato termine. Colonizzazione, ma però il colonialismo è comunque il momento storico, diciamo. Sì. Ecco, quindi, premio... Scusa, 1503, Cristoforo Colombo, che cosa fa Cristoforo Colombo? Scopre a largo di Cuba le isole Cayman e anche i conti offshore, li ha scoperti Cristoforo Colombo. Secondo me è stato anche il primo a sputarsi in bocca. Allora, vostro onore, trovo faziosa questa affermazione dell'Ottani. Non c'è più la musica, eccola. Ok. Continuiamo, 1534, Jacques Cartier, esploratore francese, scopre Terra Nova, il noto brand di vestiti e anche il cane. questo erano nuovi bracciolini, provincia d'Arezzo. Esattamente, esattamente. No? Poi facciamo un rapidissimo salto nel 1900, che più ci tiene, che più ci preme. 1967, Keith Richards viene arrestato per la prima volta, e comunque ci può stare, ma soprattutto nel 1980, quindi pochissimi anni fa, in Giappone inizia la commercializzazione di Pac-Man, il videogioco Pac-Man, che in sostanza era una palla che mangiano. Sì, infatti sì. È liberamente ispirato alla vita di Giampiero Galeazzi, che comunque salutiamo. Molto bello, molto bello. Ti è piaciuta a te? Insomma. Molto, molto. Ma Ottani apprezza il ribrezzo, sì, che lo noto, lo noto. Ma che Richards è quello dei Rolling Stones? Sì, Marco. Vero? Mario, okay. Mario. Perché è stato arrestato? Sono curioso anche di questo. Perché allora in quell'anno, nel 67, il gloriosissimo 67, in realtà furono arrestati 3 di 5 componenti dei Rolling Stones, anche Brian Jones e il cantante Mick Jagger, tutti per detenzione di stupefacenti. Ma ci tengo a precisare che Keith Richards ancora non aveva pippato le ceneri di sua nonna. Giusto. Si chiama informazione questa, Andrea Ottani. Allora, eccoci Antonio Probo. Io direi che non è l'ora di una nuova canzone di quelle che hai selezionato te, ma è l'ora di una delle canzoni che ho selezionato io. Ho una bellissima rassegna musicale per questa e le prossime rubriche del maestro Ottani, se ci darà sufficiente soddisfazione. Rimani guarda, quando... Sì, prego. Quella della volta scorsa, cioè quel mix techno della sigla di X-Files, l'ho apprezzata molto. Lo mettiamo come sottofondo, ce l'ho pronto come sottofondo, ma ho numerose bellissime canzoni di introduzione che superano nettamente il livello di quelle delle mani, fra l'altro ricordo che ce ne abbiamo una da rimettere, anche di quelle. Puoi scegliere, ce ne ho davvero tante. A me piace moltissimo quella che si intitola Il Marziano. Se mi dai il permesso, entriamo con quella. Vai libero. Vai. Magari la taglio, che è lunghetta. Io sono d'un altro pianeta. Non lo vedi che mani che ho. Ma se guardi dentro gli occhi miei, scoprirai che sono simile a te. Io sono d'un altro pianeta, non lo vedi che mani che ho. Ma se guardi dentro gli occhi miei, scoprirai che sono simile a te. L'astronave io so pilotare e so stare senza respirare. Mangio naftalina, bevo la benzina, ma sono simpatico proprio perché io sono d'un altro pianeta. Non lo vedi che mani che ho, ma se guardi dentro gli occhi miei scoprirai che sono simile a te. La stai ascoltando, maestro Ottani? Certo che sì. Lascio un altro minuto allora. Che mani che ho, ma se guardi dentro gli occhi miei scoprirai che sono simile a te. Son venuto da un mondo lontano, non lo vedi che sono un marziano. Ma il mio verde cuore sa cos'è l'amore, e se lo vorrai sarò un amico per te. Io sono di un altro pianeta. Parla sempre di mani comunque. Sì, ma poi avanti altri 3 minuti. Io direi che è il caso di tagliare. Mettiamo il sottofondo. E poi c'è una canzone d'uscita bellissima. Comunque ce n'ho una decina, quindi per le prossime volte sono pronto. Grandissimo Mario alla regia. D'un altro pianeta. Vai col sottofondo. Ed eccoci, il momento techno e via, prontissimi, prontissimi. Benissimo, siamo qui collegati con uno dei migliori ufologi d'Italia, che sì, lo ricordiamo così, non come compositore, ma come ufologo, maestro Andrea Ottani. Grazie Mario, eccomi. Non sei te, pronto. No, hai sbagliato. Usurpatore. Allora, è successo questo: mentre Antonio Probo non era desiderato, semplicemente non era stato negato la sua presenza in questa puntata di oggi, la tua, maestro, era stata bramata. Sì, perché sono arrivati numerosi commenti, non soltanto in diretta ma anche dopo, che dicevano: ma sì, chiacchieriamo di ufologia che ci interessa parecchio. In realtà hai un po' tutto lo spazio che vuoi, hai 25 minuti a disposizione, poi vogliamo andare sugli approfondimenti delle iniziative del sostegno alimentare, però prima usciamo da questo pazzerello pianeta. Sì, ci tengo un attimino a precisare che stiamo dando parola a una persona che fino a domenica scorsa faceva illazioni anonime dicendo che gli SDC sono... Ok, ricordiamo. Ma creando un panico, fra l'altro, se ci fate caso, io per le ultime tre puntate non ho mai iniziato con gli SDC dopo che mi era stata fatta notare questa cosa. L'informazione è potere, come scopriremo presto. Allora, innanzitutto volevo ringraziarti, Mario, per la dedica. Hai chiamato della Marco scorsa fino a ora, ma prego, adeguati. Sono un po' tardo, però alla fine imparo i nomi. Volevo ringraziarti per la dedica della scorsa puntata e per questa dedica stellare, grazie molte. Che non ha ascoltato in diretta perché era a farsi i cazzi suoi. Ci sono stai podcast, Antonio Probo, gentilmente. Ragazzi, io c'ho una tesi da finire, ma questo è un altro discorso. Volevo innanzitutto dire. Mi sentite? Sì. Volevo rispondere a un tuo quesito della scorsa puntata, cioè più che a un tuo quesito, a una tua. Al fatto che non sei riuscito a trovare da nessuna parte. Online. Non so dove. Il fatto che il Pentagono abbia davvero fatto questa release. Allora, okay. lo vogliamo ricordare per gli ascoltatori che non ci hanno magari sentito domenica scorsa. Certo. Faccio io, fai tu. No, vai pure. C'è questo video che sta imperversando in questi giorni di quarantena, che in realtà tre video sono stati fatti fra il 2004 e il 2017, ma sono stati ufficializzati teoricamente dal Pentagono soltanto lo scorso autunno, ma sono stati molto rilanciati negli ultimi giorni, in questi giorni di quarantena. Che video sono? Sono video che fanno vedere dei caccia americani che inquadrano Va bene Marco, la dico io. Praticamente ci sono degli strumenti di Mario. Ci sono degli strumenti di monitoraggio montati sui caccia di ultima generazione, dotazione dell'esercito e della marina degli Stati Uniti d'America, che praticamente... Sottolineiamo d'America perché sennò non si capisce. Grazie. È prezioso il tuo contributo. Perché praticamente questi strumenti sono appunto di ultima generazione e consentono di tracciare dei veicoli volanti e non a velocità altissime. Praticamente si riesce a tracciare veicoli in volo anche a una velocità maggiore rispetto a quella a cui vanno i veicoli stessi su cui è montato questo strumento. Interessante. Fin qua sì. E praticamente questi... praticamente sono tre video, di cui uno del 2000 risalente al 2007 e l'altri due risalenti al 2015, come dicevi giustamente. No, li ho oscurati di brutto gli anni, ma lasciamo. Vabbè. Non è quello l'importante. L'importante è che nessuno ha creduto al cantante dei Blink 182 all'inizio. Sì, questa è una notizia. Bravo, ottima cosa. perché questi video sono stati rilasciati innanzitutto, senza, però non stai valutando me, da una fondazione, certo, da una fondazione fondata appunto dal cantante dei Blink 182, vero? Sì, che ricordiamo soprattutto per il suo impegno sociale e molto meno per il suo impegno canoro. No, a parte questa cosa molto cattiva. No, praticamente tu dicevi che appunto non trovavi la notizia della release ufficiale da parte del Pentagono. Ecco, probabilmente non sei andato a vedere sul sito del Pentagono. Sì, perché se andiamo sul sito del Pentagono, che quindi è il sito della difesa fondamentalmente, sì, degli Stati Uniti. Ma come, pentagono.org? No, no, non è pentagono.org. Non ci sei più, maestro. Te lo dico subito, ecco. Scusa. Dicevo, posso fare salire un po' la base intanto? Base su e giù. Giù, vai giù. Giù, ci sono. Allora, www.defense.gov è il sito del Pentagono. E praticamente se andiamo nella sezione Newsroom e se andiamo nella sezione Releases di Newsroom e poi nella sezione Release e poi nella sezione Article, lì potremmo trovare appunto la release che stiamo cercando. Statement by the Department of Defense on the release of historical Navy videos. Infatti, come avrete capito dal mio impeccabile inglese, si parla di video che sono stati effettuati da velivoli della Marina Militare degli Stati Uniti. Infatti questa stessa release la potete trovare anche sul sito della Marina Militare degli Stati Uniti. C'erano ben due fonti ufficiali. C'erano ben due fonti ufficiali, infatti. E quindi niente, ora... Sì, anche vedendoli, cioè questi video sono semplicemente, è stato detto, sì, sono originali, non è stato detto sì, sono UFO, diciamoci la verità, giusto? Certo che è stato detto questo, anche perché, no, ascolta, cioè, sono stati detti sì, sono UFO, ma il fatto di distinguiamo, cioè dire che sono UFO non vuol dire che sono alieni. Prendiamo alla lettera la definizione. Oggetti identificati, oggetti volanti non identificati, ovni in italiano e anche in altre lingue romanze. Praticamente è molto semplice la questione, un oggetto volante non identificato potrebbe essere anche un oggetto di origine terrestre, perché no? Io lancio un frisbee nell'aria e tu pensi che quello sia un aeroplano, no. Non sai bene che cos'è un oggetto volante non identificato. La definizione abbraccia è molto larga e per questo abbraccia più fenomeni. Giusto. Concordi? Concordo. Provo, te concordi? Concordo. Sì, concorda, vai. Detto questo, la Marina Militare degli Stati Uniti e il Pentagono sono concordi nel dire che questi oggetti non sono di matrice umana. E di conseguenza, come dire, quindi non sono affermano... dei frisbee, ci stai dicendo che sono frisbee, ma non ci potrebbero essere frisbee. Roba dei cinesi o dei russi, super tecnologie, non ancora, non potrebbe essere roba dei cinesi e dei russi. E mi fa piacere che tu faccia questa domanda, perché questi discorsi si fanno in realtà dagli anni 60, dagli anni 50-60, quando a seguito di varie intrusioni radar e non anche visive all'interno delle aree di volo nazionali degli Stati Uniti, della Russia, siamo comunque in piena guerra fredda, praticamente i vari ministri, i vari enti governativi si chiamavano da Mosca a Washington, diceva: oh, ma è roba tua? No, oh, ma è roba tua? No, ok. Vabbè, quindi, ma che spero, se non era roba loro, mica gli dicevano di sì. Se lo fossero stati davvero, non gliel'avrebbero mica detto, no? Comunque, ma il rischio era comunque una guerra mondiale, quindi c'era anche un certo tipo di cautela su queste questioni qui, ma sì, non sì. È questo quello di cui voglio parlare. Quello di cui voglio parlare è principalmente l'atteggiamento che si ha nei confronti di questo fenomeno, che sicuramente dai tempi della guerra, della guerra fredda, ma possiamo dire del secondo dopoguerra in poi, è mutato da allora fino ad oggi. Allora tutti quelli che erano piloti militari, civili o comunque addetti alle stazioni radar o addettori di controllo, nel momento in cui questi soggetti riferivano a un proprio superiore di avvistamenti di oggetti volanti non identificati, rischiavano il posto e rischiavano di essere messi alla berlina davanti a tutti i loro colleghi. Quindi quello che tacitamente era consigliato era il silenzio davanti a questo tipo di fenomeno. Ma i casi di avvistamenti già dal 1950 in poi sono tantissimi e sono aumentati da quel momento in poi fino ad oggi. Allora, ricordiamone due o tre clamorosi magari. Potremmo ricordare innanzitutto il più clamoroso, diciamo non proprio il più clamoroso, ma quello con cui si inaugura questa stagione, direi, è l'avvistamento di Los Angeles. Siamo in piena seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti sono già entrati in guerra, è il 1944 ed è estate a Los Angeles. E non mi ricordo bene il mese, non mi ricordo bene il giorno, però se cercate su internet avvistamento di Los Angeles del 1944 troverete solo ed esclusivamente questo evento. E quindi praticamente sulla città di Los Angeles viene avvistato questo oggetto volante non identificato e, come dire, ovviamente tutti in quel momento pensano subito al fatto che sia un aereo giapponese o magari qualcosa dei tedeschi, che ne so, boh. E quindi ovviamente tutta l'artiglieria di terra viene tutto il fuoco dell'artiglieria di terra viene convogliato in quella direzione e quindi per un'ora buona si spara in direzione di questo oggetto, lo vedono tutti i giornali, il giorno dopo riporteranno tutti la vicenda. Tanto che questo oggetto rimane lì per un'ora buona, mentre praticamente quasi tutta l'artiglieria che era a distanza a Los Angeles li tira contro, e dopo a un certo punto se ne va. È un po' troppo per questi giapponesi, non lo so, a meno che non fosse Gundam. Sì, sì, un po' troppo per questi giapponesi. E questo è, diciamo, l'episodio che inaugura la stagione. Al contrario di come molti credono, invece, essere l'episodio di Roswell, che invece avviene nel 1947, e su questo episodio non spreco nemmeno parole. Famoso, famoso. Il famoso episodio di Roswell. Fatto sta che dalla Seconda Guerra Mondiale in poi l'attività ufologica è aumentata tantissimo e una delle motivazioni per uno dei perché potrebbe essere il fatto che si è iniziato su questo pianeta a testare la energia nucleare e di conseguenza la bomba atomica. Sono abbastanza tutti concordi su questa tesi. Cioè, gli UFO vengono a dare un'occhiata al fatto che noi non si faccia scoppiare la Terra con le bombe atomiche, circa. Qualcosa del genere. C'è quel video famoso che io vidi una volta che presenta una specie di navicella che fa detonare la testata di un missilone sparato dalla NASA. Esatto. Ti dice qualcosa esatto. Questo? No, in realtà è un test atomico. Quello è un test atomico di quelli come avvenivano subito dopo la Seconda Guerra Mondiale tra gli anni 50 e 60. Sappiamo bene che sia gli Stati Uniti che la Francia hanno fatto un vero bordello da questo punto di vista, cioè distruggendo veri e propri ecosistemi, anche se pensiamo solo all'atollo delle isole Figi, che lì è colpa dei francesi, con tutto il bene e l'amore per il popolo francese, però insomma... Quale amore? Proprio non serve. il loro governo in quel caso fece delle scelte chiare, e queste scelte erano appunto che sì, dai, andiamo a provare, andiamo a testare le nostre bombe atomiche su dei paradisi terrestri fondamentalmente. E in quelle occasioni si videro, ci furono avvistamenti. Il video di cui stai parlando avviene su territorio statunitense in realtà, in uno di questi stati del sud degli Stati Uniti, ora non ricordo bene se Arizona o New Mexico per l'appunto. Praticamente avviene un test nucleare, dove una testata, un ordigno nucleare viene lanciato oltre l'atmosfera, e nel momento in cui questo ordigno sta superando la barriera dell'atmosfera terrestre, interviene appunto un oggetto volante non identificato che semplicemente lo disinnesca. Cioè, ma sono buoni i video, sono veri, vero? Sono buoni video, ma non solo, cioè abbiamo le testimonianze dirette di quelli che erano i responsabili di questi progetti, dove dicono, signori, è successo questo. Ora, io voglio tagliare corto sulla questione, sì. voglio dire semplicemente questo. L'atteggiamento è cambiato e ministri della difesa, così come governanti, così come astronauti, così come scienziati, stanno parlando liberamente di tutto questo. Il Pentagono rilascia appunto questo tipo di dichiarazioni, così come la Marina Militare, essenzialmente perché pensano che ci sia un problema di sicurezza nazionale. Ovviamente loro fanno solo esclusivamente i loro sporchi interessi. Cioè, e... sì, scusa. No, niente, questo, quindi, no, quindi... non c'è nessuna notizia, io voglio dire questo, effettivamente non c'è nessuna notizia, la questione è sui canali di informazione da tempo, è ovvio che non ci sono titoli sensazionalistici, è ovvio che nessun giornale o telegiornale dirà mai gli alieni vengono a visitare la Terra, perché questo ovviamente scatenerebbe il panico. Questo lo sanno tutti, e quindi i governanti fanno in modo che queste notizie ormai sì, vengano trapelino o comunque vengano proprio annunciate, e quindi tutto quell'atteggiamento che c'era in precedenza, che definiamo come cover up, termine tecnico, non è venuto meno, o comunque viene sempre più meno. Quindi tu ci rappresenti una situazione in cui in realtà di queste cose se ne stava... Lo si sapeva da tanto tempo, ci sono fior fior di testimonianze che sono, e anche testimonianze orali, ma testimonianze visive che sono state taciute, che sono state tenute nascoste e che però adesso finalmente iniziano a venire rilasciate, cioè perché cambia l'atteggiamento dei vari governanti, perché è qualcosa di incontrollabile. Cos'è che fa cambiare? Esatto, è qualcosa di controllabile e qualcosa di non più gestibile, anche visto il numero di avvistamenti che avviene ogni anno, ma non solo. È un discorso anche legislativo, per esempio, perché tutte quelle che sono le agenzie, come possono essere i servizi segreti, anche italiani, devono rispondere a una legge che è in vigore sul territorio, e per esempio in Italia, come anche in Gran Bretagna, ma come anche in Francia, c'è una legge che dice che ogni 70 anni più o meno, anno più anno meno, a seconda poi anche appunto dei vari stati, i documenti top secret devono essere desecretati, devono essere declassified, dicono gli statunitensi. Attenzione, infatti mi fanno segnalare adesso che non si sta sentendo più lo streaming, che che ne dici, potrebbero essere stati gli alieni? Chissà, potrebbe essere, no, ma in realtà no, lo fa sempre, che siamo con i mezzi un po' raccattati, e comunque il podcast si potrà ascoltare per intero. Ma intanto mi fanno notare, te lo conosci il film Ultimatum alla Terra? Me lo segnalano. Certo. È un film che parla degli alieni. Ce ne che vengono sono due in realtà, c'è l'Ultimatum alla Steamboy, Terra. Giovane Steamboy. C'è Ultimatum alla Terra degli anni 50, credo. E poi c'è il remake, come va di moda in questi tempi, dove il protagonista è niente po' di meno che Keanu Reeves. Ma è più bello l'originale, ovviamente. Scusate, abbiamo un'ansia rapidissima, no. Radio Wombat, non si sente un cazzo, confermo, non si sente un cazzo, voi studio. No, davvero, ma qua c'è chi dice che invece si sente, c'è chi dice di no, però noi andiamo avanti imperterriti, perché tanto ci saranno streaming sul podcast. Coincidenze? Io non credo. No, nemmeno io. Però ascolta, invece ti voglio dire questa cosa, ma... Secondo la tua teoria, ci sono stati contatti diretti fra i vari governi? Voglio fermarti. Non è la mia teoria. Non è una mia teoria. Scusa. La realtà. No, ma non ce l'ho con te. È per semplicemente... Grazie. rendere... È semplicemente per far chiesa ai nostri radioascoltatori anche. La realtà è questa. Che ci piaccia o no. Nel senso... Il fenomeno esiste, c'è e ce ne stanno parlando tutti. È ovvio che non lo fanno in termini sensazionalistici, perché questo si ritorcerebbe ovviamente contro quello a cui loro aspirano, cioè tenerci in ordine. Musica, aspetta. No, ok, c'è un po' di discussione sul pad, se funziona o no lo streaming, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, ma io propendo per il sì, noi andiamo avanti come se nulla fosse, ma... Stando a tutto questo, quindi, si tratta semplicemente di una affermazione, di un qualche cosa che è obiettivamente già dato, obiettivamente già acquisito negli anni passati da molti governi, da molti astronauti, da molti piloti, e che non è stato rilasciato per evitare che la popolazione... E qua finiscimela un po' te la frase. Per evitare che la popolazione inizi a creare dei disordini, perché comunque tutte quelle che sono le presunte, supposte verità teologiche, religiose alle quali ci affidiamo, sono, come dire, degli specchi per le allodole, direi. Sono un qualcosa che servono anche a tenerci buoni. Con tutto che ci sono posso diversi... Posso fare una brevissima domanda, Mario, per favore? Sì, prego. Prego. Maestro Ottani, una brevissima quanto difficile domanda per lei. Semplicemente, e allora il PD? Cioè, il PD lo sa? Cioè, quando il PD stava... La faccio io così. E quando il PD stava al governo, quando c'era... a parte che ci sta anche adesso... I governanti italiani, quindi, sono avveduti di questa cosa? I governanti italiani sono avveduti di questa cosa. Rispetto ad altri governi, come è d'abitudine per il governo italiano, siamo un po' indietro. Ma comunque... Cioè, aspetta, scusami, maestro, ma anche Di Maio, per dire? Di Maio penso che ne sta venendo a conoscenza in questo momento. Ora, perché sta ascoltando, ascolta, certo. Radio Wombat. Ok, perché se no è totalmente assurda questa cosa, ok? Non è possibile. No, non è possibile. Però in realtà c'è quel video del delfino di Putin, che ora non mi sovviene come si chiama, in cui c'è una traduzione che chissà se è vera, chissà se è farlocca, in cui lui dice fuori onda alla giornalista che c'hanno i protocolli, che c'hanno i fascicoli segreti. Lo conosci, maestro, questa? No, questa non la conosco. Ah, ti informerò per la prossima volta. Però invece, tornando all'oggi, ma si sa la provenienza? Allora, quello che hanno rivelato diversi, come dire, ex impiegati di agenzie governative e o agenzie militari, che a questo punto non hanno praticamente niente da perdere, perché prima... venivano tenuti sotto scacco attraverso minacce rivolte ai loro familiari o comunque alla loro posizione lavorativa. In questo momento invece tutti quelli che erano gli impiegati degli anni 60 e 70 all'interno di queste agenzie si sentono di poter parlare liberamente. Hanno detto diverse cose. Quello che è sicuro è che facendo un riferimento anche alla scorsa puntata, quelli che tu definivi come i grigi, quindi il classico alieno che noi abbiamo in mente, quindi bassino, pelato, grigio, occhi grandi, neri. In realtà loro non sono alieni, sono... Magalli, praticamente. Magalli, esatto. Sono degli Ebe, o per meglio dire Ibi, con la terminologia... I grigi sono degli Ibi, non degli alieni. Esatto, sono precisamente... Sì. Delle extraterrestrial biological entity, cioè sarebbero degli schiavi androidi degli alieni. Dei robot alieni sono, quindi? Quasi, biologici. Cioè, non fa... ok, bello. Un po' la Blade Runner. Ma quindi hai ragione. Praticamente fanno il lavoro sporco loro, perché ovviamente, figurati se questi qui che possono viaggiare ad anni luce di distanza si sporcherebbero le mani. Ma quindi ha ragione quel ragazzotto russo che dice col cazzo che gli alieni sono piccolini, macilenti, con gli occhioni e le ditine, noi siamo delle bombe alte 7 metri e respiriamo anidride carbonica. Sì, il ragazzotto russo ha ragione in questo senso, però quello che lui... c'è un passaggio che secondo me lui confonde, ed è quello del discorso della reincarnazione. Sì. Però qui scusate, si apre... però magari gli ascoltatori di oggi non sanno giusto di chi stiamo parlando. Allora, c'è un tizio, lo dico io velocemente, c'è un tizietto russo. Lenin, semplicemente. È molto più facile detto invece, ragazzotto, perché usare perifrasi? C'è Lenin, una parola. Allora, c'è un tizio russo che... allora, proviamo a trovare. C'è un tizio russo che racconta che adesso ha 20 e qualcosa anni di essere stato un marziano che poi ha vissuto a lungo, si è addentrato nell'antico Egitto con la sua navicella spaziale, ha visitato la Terra secoli e secoli or sono, era immortale, poi comunque è morto. Però dice che gli alieni ci sono tuttora, sono marziani, vivono sottoterra perché dopo un disastro nucleare che c'è stato su Marte è diventata irrespirabile l'aria, hanno imparato a vivere sottoterra respirando anidride carbonica, sono delle bestiacce alte 7 metri che raggiungono l'immortalità a 35 anni e che lui si è reincarnato secoli dopo nel corpo di un giovane ragazzo russo che adesso ha 20 e qualcosa anni. Allora, diciamo subito una cosa, che il fatto che queste entità raggiungano l'immortalità non vuol dire che sono immortali, cioè nel senso, se tu raggiungi l'immortalità vuol dire che puoi vivere per sempre, ma se io ti taglio la testa, muori. Ok, giusto, giusto. Però quando parlava di raggiungiamo l'immortalità a 35 anni, questo era un dato preciso. Sì, questo era un dato preciso, ma io sul ragazzetto russo non è che voglio fare affidamento. Quello che voglio dire, voglio dire semplicemente questo, che lui, secondo me, confonde la reincarnazione con la compresenza all'interno di uno stesso corpo e di una stessa mente di diverse anime. E su questo rimando alla lettura di quelli che sono tutti gli studi effettuati da Corrado Malanga, che è un professore dell'Università di Pisa, un ex professore in realtà perché è andato in pensione, un professore di chimica, tuttora responsabile del Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa, che studia il fenomeno praticamente dagli anni 80 fino ad oggi ha studiato il fenomeno, e lui ha rilasciato tutti i suoi studi sul suo sito e sono tutti consultabili, anche perché tutti sotto Creative Commons, che ci piace tanto, e quindi possiamo... cioè, sono tutta una serie di articoli di PDF. Allora, il sito è corradomalangaexperience.com, giusto? Sì, esatto, sì, sì. esatto. Su questo sito possiamo trovare tutte quelle che sono i suoi studi, i risultati dei suoi studi, e se confrontiamo i risultati dei suoi studi con le testimonianze del ragazzo russo potremmo capire che in realtà quello che all'interno della mente di questo ragazzo si è palesato come il ricordo di un'altra vita, nient'altro è che il ricordo di una vita che non è la sua, che è stata installata all'interno della sua mente per... attraverso delle dinamiche che scopriremo in un'altra puntata. Beh, fantastico, quante cose a cui andare a fondo. Infatti non chiudiamola qui, soprattutto poi vedo che ci sono un sacco di commenti su questo argomento, quindi se siamo ok, vedo tanti commenti, tantissimi link, non abbiamo purtroppo il tempo di approfondirli oggi, ma direi che nelle prossime puntate andiamo un pochino in avanti. Intanto qualche domanda molto molto veloci. La prima: qualcuno chiede: sei raeliano? E sai che e come, scusa? Ti chiedono se sei raeliano. Forse volevano dire rettiliano. No, raeliano, che è un movimento, su Wikipedia, un movimento religioso basato sulla credenza secondo cui alcuni extraterrestri scientificamente avanzati, chiamati Elohim, avrebbero creato la vita sulla Terra attraverso l'ingegneria genetica. No, io non sono raeliano, ho capito bene in questo senso qual è l'oggetto della domanda. Nel senso, il discorso sull'ingegneria genetica operata da parte di queste entità extraterrestri è un altro grande capitolo. Io ne parlerei molto volentieri in altre puntate. Quello che posso dire adesso è che non è il caso di creare dei movimenti o delle correnti di pensiero che comunque sono in qualche modo fideistiche, perché non si sta parlando di fede, si sta parlando di dati oggettivi alla mano. Ma riguardo a quello che diceva invece il ragazzo russo, cioè che la Sfinge sarebbe un monumento in origine aliena che avrebbe un meccanismo di sbloccaggio dietro l'orecchio che, se attivato, salverebbe l'umanità invece e permetterebbe un salto evolutivo di tutta la nostra specie. Di questo che ne pensiamo? Questa io non l'avevo mai sentita. Sulle piramidi, comunque, su quelli che sono i monumenti egizi, si sono spese tante ricerche e tante parole. Quello che è sicuro non è tanto un coinvolgimento delle entità extraterrestri all'interno della civiltà egizia, seppur ci siano tanti studi a riguardo, ma piuttosto il fatto che quelle che sono le nostre credenze, le nostre basi scientifiche, storiche, archeologiche su l'inizio, sull'origine della civiltà umana, vengono via via sgretolate da delle scoperte archeologiche. Scusa, mi stavo distraendo a leggere. Ci sono davvero tantissimi commenti, è una rubrica, beh, ricca di un sacco di cose. Ne parliamo la prossima volta, però, direi, di tutto questo, anche dei monumenti egizi su Marte, perché comunque sembrerebbe che ci siano degli allineamenti fra le piramidi e alcune sculture a forma piramidale che sono state viste su Marte. Ti sembra corretto? Molto volentieri, molto volentieri. L'unico appunto che vorrei fare è che, secondo me, questo tipo di indagini sono quelle nel settore, dal mio personalissimo parere, un po' meno interessanti. Ok, ma invece così, giusto le ultime due questioni buttate lì, in modo molto lapidario. La questione del gruppo sanguigno, dell'ARH negativo, del fatto che gli umani siano gli unici mammiferi a possedere questa particolarità, mentre tutti gli altri mammiferi pare che abbiano ARH positivo. Ho letto che diverse persone ci leggono un'origine extraterrestre di fronte a, cioè, una commistione genetica fra sangue marziano e sangue terrestre. Corretto? Quello che è sicuro è che questa è un'anomalia genetica e che, da un punto di vista evoluzionistico, è impossibile da spiegare con quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione oggi. Io non voglio dire che questa è una prova schiacciante del fatto che ci sia stato un intervento di manipolazione genetica sul genoma umano in un certo punto della nostra storia. Quello che io voglio dire è che è un ulteriore tassello sul quale indagare. Ma invece i rettiliani ci sono? Ecco, esistono? Su questo ci sono diversi appunto, voglio sempre rimandare, a costo di ripetermi, alle scoperte del professor Malanga, che saluto e che spero di poter invitare in una di queste puntate in radio, perché comunque il professor Malanga è un compagno. Senti, ma mi dice che qualcuno che Corrado Malanga è quello che crede nei benefici delle campane tibetane. Ti risulta questa cosa? Allora, Corrado Malanga, bisogna fare, appunto, abbiamo sempre troppo poco tempo per questo tipo di discorsi. Sulla questione dei 432 Hz e tutti i benefici che ne possono derivare da questo tipo di frequenza, ci sono spesso troppe parole, probabilmente anche soprattutto da quelli che aderiscono in maniera più o meno cosciente al movimento New Age, ok? Corrado Malanga, a differenza di tanti ciarlatani, ha fatto degli studi fisici e scientifici su questo tipo di frequenze. Quello che possiamo vedere dai suoi studi è che ci sono delle correlazioni, questo è sicuro, e quindi un certo tipo di frequenze acustiche possono, a quanto pare, allinearsi con dei ritmi biologici. Ora, io ho letto questo tipo di studi e le mie conoscenze della fisica sono anche limitate, quindi li ho fino a un certo punto, però chi meglio di me potrebbe capire questo tipo di studi si renderà conto non tanto della veridicità degli studi quanto del approccio totalmente scientifico e come dire, privo di qualsiasi mistificazione o non so come dire. Sì, sì. Ma infatti, ora io direi che anche per la prossima volta io mi vado a informare. Vado a vedere la pagina corradomalangaexperience.com, così arrivo preparato alla prossima puntata. Davvero stanno imperversando i commenti, quindi direi che è il caso di non concluderla qui, ma di andare avanti prossimamente. Soltanto, siccome però il tema è caldo e poi la prossima replica è alle 22, fammi ancora insistere su questo argomento. I rettiliani, mi sono forse distratto sulla risposta che mi hai dato prima. Ci sono o non ci sono? Ci sono diverse razze di rettiliani. Di rettiliani, ci sono diverse razze. Sì, meglio... Cioè sono tutte presenti attualmente sulla Terra. Nell'universo, scusa. Parliamo della nostra galassia, limitiamoci alla nostra galassia perché già è abbastanza sovraffollata più di quanto possiamo immaginare. Il termine tecnico più corretto sarebbe sauroidi. Che li racchiude tutti. Li racchiude tutti, esattamente. Sono almeno tre razze corrispondenti alla definizione di rettiliani e in realtà, come tanti pensano siano i più cattivi, in realtà no. Corrado Malanga ci illumina da questo punto di vista e ci dice che tutti sono cattivi fondamentalmente nei confronti degli esseri umani e quindi si dirà, ma allora tutti gli extraterrestri sono cattivi? No. In realtà no, perché bisogna cercare di capire a fondo qual è quella che è la loro agenda, come si dice negli States. Cioè? I loro obiettivi. I loro obiettivi e la loro agenda, quindi, rispetto alla razza umana. E te supponi che siano in contraddizione le une con le altre, le agende? Delle varie razze? Sì, sì. Sì, soprattutto quello che si denota è un sistema di subordinazione. Cioè, degli umani a loro? E di loro tra di loro. Ok. Ripeto, wow. Qui io mi... Ma e quindi quella pubblicità del sapore... Infatti ce la teniamo caldissima per la prossima volta. Ma e quindi la pubblicità che ho rilanciato l'altra volta, quella del sapone che ricordo si chiama Escudo, che è un sapone spagnolo che fa vedere... una pubblicità in cui ci sono alcuni medici e rilasciato durante questo periodo di coronavirus, a un certo punto c'è una dottoressa, inquadrano i volti coperti dalle mascherine e dai copricapi da medici, in cui c'è questa dottoressa che avrebbe queste pupille verticali e l'iride verde e c'è un sacco di persone che dicono che si tratta di un messaggio dato dai rettiliani in generale alla Terra per dire siamo qui presenti e molto presto prenderemo il controllo. No, sono delle cazzate queste secondo me, nel senso che non hanno bisogno di utilizzare questi mezzi, questo è ovvio. Se si cerca di approfondire quello che è il discorso della loro agenda, si capisce benissimo che sì, hanno capacità mutaforma, come dicono svariati testimoni. Possono assumere forma umana? Possono assumere forma umana, ma non, di certo non commettono errori talmente banali, direi. Cioè, non avrebbe senso che si rivelassero attraverso pubblicità di questo tipo, per quale ragione mai? È più probabile sia un'operazione di marketing del sapone Escudo che vuole fare chiacchierare, esatto, giusto? Esatto. Non avrebbe nessun senso soprattutto che si rivelassero, se andiamo a capire quelle che sono le caratteristiche della loro agenda, per l'appunto. Cioè, e i Men in Black, in questo senso, sono alieni o sono indagatori governativi attorno alla questione extraterrestre? I Men in Black sono principalmente umani. E hanno a che fare, come dire, sono una sorta di tramite, in qualche modo, tra quella che è l'agenda delle varie razze e quelle che sono anche gli interessi che giustamente... come dire, i governanti della Terra vogliono portare avanti in questo rapporto. Due perché domande... c'è un rapporto. Cioè, ma c'è un c'è una linea diretta di contatto? C'è una linea diretta di contatto, si parla di esopolitica. E questo avviene fra i più potenti governi della Terra e gli organismi dirigenti, gli organi dirigenti delle razze rettiliane, giusto? Sì, ci sono un presidente americano, in particolar modo Eisenhower, ci mise in guardia anche su quelli che sono i veri governanti, cioè non stiamo parlando di Barack Obama, di Donald Trump o di Di Maio, per l'appunto. Ma stiamo parlando di quelli che sono dei gruppi di potere che hanno una base militare industriale. E questi gruppi di potere noi possiamo notarli e possiamo capire che esistono al di là di questo fenomeno, anche solo se pensiamo a quello che è il traffico delle armi all'interno della Terra. Cioè, questa è strana. Che senso dici? Il traffico delle armi? Nel senso che... le guerre, fondamentalmente, la maggior parte delle guerre che avvengono nella Terra sono alimentate e fomentate da coloro i quali detengono il potere economico e militare. Esatto, il potere economico e militare, comunque quelli che hanno un profitto dal vendere delle armi. Questo è ovvio. Pensa anche al semplice discorso che si faceva prima sulla Turchia. Noi dall'Italia vendiamo delle armi in Turchia e questo è un guadagno per tutte le industrie italiane. Sì, il governo italiano ci può guadagnare anche, come dire, marginalmente, ma quelli che ne traggono realmente profitto sono dei privati. Ma quindi, scusa la domanda grossolana, ma allora perché si sono incazzati in passato gli alieni col fatto che c'erano le bombe atomiche? Non sarebbe stato più profittevole produrle e venderle? Sì, ma il discorso delle bombe atomiche è un altro, cioè nel senso... una questione etica? No, è una questione che abbiamo tra le nostre mani la possibilità di spazzare via la vita da questo pianeta e come potremmo vedere da quelle che sono le agende di queste razze aliene, loro non hanno nessun interesse a spazzare la vita via da questo pianeta, anzi... Ok. E infatti c'è una domanda interessante fatta adesso sul pad, ma quindi il capitalismo è alieno? Il capitalismo, in questo senso, non è tanto un discorso alieno, è un discorso, come dire, è il... pensiamo alla gestione delle informazioni, ok? Le informazioni, in questo senso, l'abbiamo visto con Facebook, l'abbiamo visto con affari... tutti umani da questo punto di vista. Le informazioni sono una risorsa, sono un capitale anche, se vogliamo definirlo in questo senso. E chi detiene queste informazioni ha il, come dire, ha maggior potere tra le sue mani. Ok? Quindi gestire il modo in cui queste informazioni possono trapelare, gestire il modo in cui queste informazioni possono passare è una forma di esercizio, è un modo in cui questi privati riescono ad esercitare il potere. E si suppone che siano direttamente in contatto con forme di vita extraterrestre, allora? In realtà quelli che sono realmente in contatto sono pochi, cioè non è sono eterodiretti piuttosto? Cioè sono diretti dall'alto, sono controllati questi flussi, questi luoghi di potere? Esatto, ci sono degli esseri umani che sono in diretto contatto con questo tipo di entità. Di sicuro non è il presidente degli Stati Uniti d'America, e di sicuro non è il presidente, come dire, il ministro della difesa francese. Però c'è sempre maggior interesse da parte anche di questi, come dire, agenti del potere paralleli, che ricevono ad un certo punto della loro carriera dei briefing, per così dire, su questo tipo di attività, e quindi vengono a contatto con questo tipo di informazioni. Senti, e invece i governanti religiosi, cioè tipo il Papa? Ma c'è stato da poco una conferenza sulla vita extraterrestre nello Stato Vaticano, mi pare di aver sentito, venuta nel 2018, penso, una roba del genere. E cioè, io ho letto anche qualche articolo che diceva che il Vaticano detiene anche dei corpi alieni, o comunque ha una serie di informazioni segretate e non rilasciate che dimostrerebbero la vita extraterrestre. Ti torna oppure sono ciance? Ma io questo non lo so, ma ripeto ancora una volta, non sono questi secondo me i temi importanti. Quelli okay. che sono i temi importanti da sottolineare è come cercare di uscire da questo, come dire, loop di potere all'interno del quale noi siamo nient'altro che strumenti, non siamo nient'altro che degli organi sulla quale poter esercitare il proprio potere. Come? Attraverso la gestione delle informazioni. Questo avviene anche a livello totalmente umano, attraverso quello che è il quarto potere, no? Quello del controllo delle informazioni. Quello del controllo delle informazioni, la stampa, i giornali e quant'altro. Scusa, sono distratto perché stanno arrivando davvero tantissimi messaggi sul pad. È una rubrica che sicuramente c'è un sacco da dare, quindi io direi che, siccome anche l'ora è questa, ho tempo per l'ultimissime due domande, sempre proprio lapidarie. Poi facciamo tardi, se no con la replica che segue. Sei d'accordo ad averci ospite, a essere di nuovo ospite con noi nelle prossime domeniche, per andare un po' a fondo anche con alcune domande che in realtà potremmo raccogliere su postawombat@insiberia.net, oppure sempre in diretta sul pad, dal quale anche adesso in tanti ci stanno scrivendo? Sì. D'accordissimo, d'accordissimo. Grande. Senti, alla bruciapelo, le ultime due. La Terra è piatta? No. È possibile spostare, come raccontavo la volta scorsa, il sistema solare? Ed è utile? Parlano di un motore interstellare che ha anche un nome, ora non mi ricordo qual è, ma lo riesco a riprendere. È possibile, non adesso per gli esseri umani con le tecnologie di cui siamo a disposizione. Sarà utile, io direi, tra 3 miliardi di anni, perché il Sole si dovrebbe spegnere, secondo le previsioni astronomiche e scientifiche totalmente, entro 4 miliardi di anni. In questi termini dici che è utile spostarlo per andare verso un'altra stella? O spostiamo la Terra o spostiamo gli esseri umani. Sì, sì. Va bene, quindi o emigrazione o, come si dice, o esodo verso un altro pianeta. Esodo. Abbiamo 3 miliardi di anni di tempo come minimo, insomma, un po' di tempo per organizzarci ce l'abbiamo, direi. Ok. E gli ultimi... Io inizio! Aspetta, Leon, le ultime due, le cose che ho annunciato la volta scorsa in trasmissione. Mega veicolo extraterrestre nascosto fra gli anelli di Saturno, ci sta o non ci sta? Ma questo io non so cosa rispondere perché non avendo nessun tipo di dato alla mano, non è possibile secondo me proprio formulare una risposta sensata. Gli Stargate parlano di Stargate in Yemen e in altri posti del mondo, che sarebbero portali di contatto con altre dimensioni per andare attraverso lo spazio-tempo direttamente in un altro luogo dell'universo? Allora, Stargate sulla Terra non lo so, quello che invece sono i wormhole, che corrispondono esattamente alla descrizione che hai appena fatto, sono stati teorizzati da Einstein, quindi direi che comunque non stiamo parlando di pseudoscienza, stiamo parlando di relatività generale o comunque di fisica, che è la fisica che conosciamo noi oggi. Va bene, un sacco di cose, va bene. Vogliamo andare avanti. Tra l'altro, davvero, mi hanno linkato tantissimi articoli, quindi poi li vado ad approfondire nei prossimi giorni e te li ripropongo nelle prossime volte. Antonio Probo, una domanda per te. Il ruolo dell'Umbria in tutto questo? Il ruolo dell'Umbria? Non lo so. Direi nullo, assolutamente nullo. Sei d'accordo, maestro Tani? Il ruolo dell'Umbria è nullo in tutto questo? O hanno forse tanto a Perugia da dare, ma ancora non lo sanno. Oh, comunque dice che in Toscana è la regione d'Italia con più avvistamenti. Sono andato intanto a cercare. La Toscana e il Lazio, le aree etrusche, sono quelle con il maggior numero di avvistamenti UFO d'Italia, fra l'altro. Lo sapevi? Beh, sì, si risponde anche facilmente a questo tipo di informazione, visto che comunque la Maremma, sia toscana che laziale, è uno dei luoghi dell'Italia, con della più penisola. No, che hai detto? Con l'inquinamento, il minor tasso di inquinamento luminoso. Ok, la vicenda di Firenze dello... con più alcolisti. No, va bene, dai, me le tengo tutte per la prossima volta, se no decisamente faccio tardi. Intanto, aspetta, mi continuano a scrivere, mamma mia, quanti messaggi. No, la prossima volta, tutti la prossima volta. Amici, ci risalutiamo però dopo la canzone e poi andiamo con l'approfondimento, va bene? State ancora con me 2 minuti? Certo. Grandi. Antonio Probo. Eccolo. È una delle tue adesso, puoi scegliere. Dammi una possibilità. Ci sono rimaste due canzoni, Mina e Selton. Wow, Selton, bellissimo pezzo, si chiama Pasolini, molto figo, molto divertente. Beh, grazie intanto. Vai. Maestro Tani, grazie Provo, ma ci salutiamo dopo. Viva Selton, Pasolini. Non so cosa dire, cito qualcuno per non stare zitto. Allora, chebra, muoviti, muoviti, chebra, fammi ballare, chebra, muoviti, muoviti, chebra, balla cugina, chebra, muoviti, muoviti, chebra, fammi ballare, chebra, muoviti, muoviti, chebra. E per tutti quelli che pensano che questo pezzo sia privo di contenuto, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, mando un vocale, mi si scioglie il tempo verbale, un gatto che balla sto male, che palle, un do stress, in Brasile se aula portoghese, schiebra shake, scendi sali, non pensare troppo che ti fa male. Questo era lo spazio dedicato al featuring, ma nessuno se l'è sentita di rovinare la sottile ironia di questo pezzo. Muoviti, muoviti, chebra, fammi ballare, chebra, muoviti, muoviti, chebra, balla cugina, chebra, muoviti, muoviti, chebra, fammi ballare, chebra, muoviti, muoviti, chebra. Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini. Scusate, scusate, rimetto disastro. Aspettate. Eccoci, eccoci, non, no, rimetto la stessa base perché intanto continuano a fioccare i messaggi. Maestro, sei sempre con noi? Yes. Senti, ma bruciapelo, ancora una, l'ultima, davvero fra i tanti messaggi scelgo questa. Mi dicono, non abbiamo parlato delle metriche dei wormhole, sai di cosa parliamo? Ho anche un suggerimento, se no. Vai col suggerimento. Ponte di Einstein-Rosen. Certo, Ponte di Einstein-Rosen. Stiamo parlando principalmente... L'ho pronunciato malissimo. Anch'io, è colpa mia. Sì, sono nient'altro che wormhole. Sono delle manifestazioni all'interno... Sono in pratica proprio dei... delle manifestazioni all'interno del tessuto spazio-temporale. Se noi immaginiamo il tessuto spazio-temporale come un tappeto elastico e i vari corpi all'interno di questo tessuto, come per esempio le stelle, i pianeti, avete presente quando mettete, che ne so, una palla da bowling su un tappeto elastico? Che sì. Cosa succede? Si affloscia, si forma. Quella è la forza di gravità, semplicemente. Quella è la manifestazione visiva della forza di gravità. Il ponte di Einstein-Rosen è una concentrazione di massa talmente tanto grande che permette di bucare il tessuto spazio-temporale e di andare al di là e quindi ritrovarsi in un altro punto dello spazio-tempo. È stato teorizzato appunto da Einstein e da Rosen, soprattutto anche a fronte di quelli che sono stati gli studi che loro hanno fatto sui buchi neri, che sono comunque entità molto e fenomeni molto simili. Ok, scusami se in realtà non l'ho ascoltata bene la risposta, purtroppo, ma va bene, ma perché l'ora è tarda e continuano davvero ad arrivare messaggi, è una roba super interessante, va bene, non la dobbiamo assolutamente concludere qui. L'ora è così tarda che non posso, nonostante l'abbia fatto, di allungare di ben mezz'ora rispetto a quello che ce l'avamo... Posso dire solo un'altra cosa? Come no, certo. Io voglio dire solo un'altra cosa. Certo. Su, per esempio, quella che è l'origine del coronavirus, no? No, vabbè, apri una roba pazzesca. Guarda. No, voglio dire solo al volo, perché poi la tiriamo fuori per bene la prossima volta. È un discorso di atteggiamento, è solo un discorso di atteggiamento del pensiero. Qualcuno, l'OMS o dei privati all'interno dell'industria sanitaria o chissà chi, ci dice no ragazzi, non è di origine umana, ma deriva dalla natura. E noi ci crediamo. E questo è un atteggiamento fideistico, perché noi comunque non ci andiamo a documentare in questo senso, non ci andiamo a leggere gli studi scientifici in questo senso. E allora perché, io mi domando, tanti invece hanno un atteggiamento da San Tommaso, invece su tante altre questioni, non solo quella degli alieni, ma su tante altre. Io dico che quella che bisogna sempre mantenere viva è la curiosità, e in questo senso non lasciarsi abbagliare dal sensazionalismo, dal cospirazionismo, però allo stesso tempo cercare di avere un atteggiamento obiettivo su quelle che sono tutte le questioni. Beh, perché a voi vi hanno detto che vi dovete mettere la mascherina, però voi non siete andati a vedere perché ve la dovete mettere sta mascherina, dico da un punto di vista scientifico, ok? Non vi siete andati a leggere gli studi. L'ha detto Zaia, Antonio Probo dice... Diventiamo tutti dei grandi scienziati, sì, allora a questo punto... Zaia. Cioè io non ho le competenze per andarmi a... Non ho le competenze per andarmi a leggere uno studio scientifico su quelli che sono i metodi di trasmissione del coronavirus. Ma Zaia probabilmente ce l'ha. No, vabbè, è un argomento troppo powerful da riuscire a sbloccarci adesso. Mamma mia, come facciamo? Dobbiamo vertere assolutamente verso il lato serio della trasmissione, perché se no si avvicinano alle 22 e inizia la grande replica di Uru. Scusami se la blocco qua, ma portiamola a casa la prossima volta. Portiamola a casa la prossima volta. Ci vediamo domenica prossima. Allora, domenica prossima approfitto di questo momento per annunciare... Continua ad arrivare messaggi, scusa. Allora, domenica prossima è possibile che organizziamo, ce la vediamo stasera nell'assemblea che faremo di Radio Wombat appena finita questa trasmissione, se fare un bel collegamento radio con tutta una serie di altre radio, Radiogramma, Radio Forte, Radio Spore, Radio Blackout. Vediamo un attimino se domenica prossima l'organizzeremo oppure no. Se non è domenica prossima, però è assolutamente fra due domeniche, di nuovo qui in diretta con me. Probabilmente Antonio Probo non lo vogliamo, maestro, andiamo avanti con te, oppure decidiamo di dargli un piccolo spazio sulle notizie del giorno, eh? Ora vediamo. Assolutamente, non sono un rettiliano. Non c'è. Sono distrattissimo. Io ce lo voglio, Antonio Probo. Sì, no, ma infatti, certo, siete una super coppia. Grazie, amici, grazie per questi grandissimi collegamenti, ci riaggiorniamo prossimamente. Adesso lascio andare un po' il sottofondo e poi ripartiamo col nostro approfondimento sulle reti alimentari. Dai, troviamo un po' cambio drastico. Non grattare la pelle sugli impianti, mi raccomando, gli impianti sottocutanei, non ci grattate sopra. Wow. E non ingerite disinfettante, ciao, non, amici. Soprattutto non ve lo iniettate. Ciao Antonio Probo, ciao Maestro Ottani, grazie a tutti quelli che stanno partecipando, grazie a voi per la diretta e il collegamento. E passiamo di palo in frasca, davvero di palo in frasca. Ed eccoci, ora regolo di nuovo i volumi col cambio di assetto, vediamo un attimo. Allora, intanto ricordo che tutta questa puntata si potrà riascoltare in podcast sul sito della radio, magari la segmento, anche perché verrà lunghissima, da più di 3 ore, quindi magari la spezzetto e ne faccio alcuni stralci. La si potrà riascoltare da domani. Sempre da domani ci sarà online il palinsesto di tutta la prossima settimana, quindi annunceremo direttamente lì sul palinsesto della radio se ci saranno o meno questi speciali col collegamento con le nostre radio sorelle e cugine. Però, come avevamo annunciato domenica scorsa e come facciamo adesso, vogliamo procedere con alcuni approfondimenti. Avevamo promesso, ed eccoci qua a fare i primi, alcuni approfondimenti sulla Firenze solidale. Sì, perché è da qualche giorno che è stata pubblicata sulla pagina della Polveriera, lapolveriera.noblogs.org, ma anche in tutta una serie di altre pagine Facebook e non solo, la mappa della Firenze solidale. Sono una serie di iniziative di sostegno alimentare, commissioni eccetera, che varie realtà fiorentine, occupazioni, collettivi, case del popolo e il mondo dell'associazionismo ha messo in atto per provvedere a questa crisi in tempi di coronavirus. Ripeto, la mappa la si può trovare sulla pagina della Polveriera. E grazie al supporto degli abitanti, delle reti di commercianti, alle donazioni di tanti e tante, sta crescendo sempre più questa rete solidale, all'urlo, insomma, allo slogan di a ciascuno secondo le proprie possibilità, ad ognuno secondo ciascuno secondo le proprie possibilità, ad ognuno secondo i propri bisogni. Come stiamo vedendo, si tratta di un'emergenza sanitaria che che non è soltanto un'emergenza sanitaria, infatti da questa crisi del sistema sanitario si è originata una profonda e si sta sviluppando una profonda crisi sociale ed economica e lavorativa che non accenna a finire, anzi con lo stracazzo accenna a finire, si prolungherà ben oltre la fine di questo isolamento anche mediano come stiamo vivendo adesso. E quindi in questa mappa online interattiva tutte le iniziative del territorio di solidarietà dal basso di Firenze sono raccolte, non soltanto Firenze, si va anche verso Campi Bisenzio con il Camilo Sienfuegos a Prato, con i Sicobas Prato, a Bagno a Ripoli, a Capannuccia, eccetera. La mappa è stata realizzata su OpenStreetMap, ci sono una serie di posti a cui fare riferimento, dal Di Qua d'Arno, la polveriera e gli anelli mancanti, l'Oltrarno con l'occupazione di Via del Leone, il laboratorio di Laddarno, il quartiere 5, potere al popolo, il CPA per Campo di Marte, Sorgani, Coverciano e Le Cure, le minime, il fondo comunista, le piagge, la comunità delle piagge, il centro sociale Il Pozzo, eccetera eccetera. Tutte queste informazioni si possono trovare, ripeto, sulla pagina della polveriera e sulla mappa pubblicata su OpenStreetMap, e da oggi vogliamo fare una serie di approfondimenti in cui andiamo a domandare direttamente a quelle realtà che si organizzano sul territorio come vanno queste iniziative e quali prospettive intravedono. E la prima l'abbiamo pensata di fare oggi con il CPA Firenze Sud e la rete Fuori Mercato. Un attimo, sistemo la base. Ripeto che la zona di riferimento del CPA è quella di Gavinana, ma anche di Sorgani, Coverciano, Le Cure, Campo di Marte, e assieme alla rete Fuori Mercato hanno dato 3 numeri di riferimento, si trovano sul sito e sulla pagina social del CPA, oltre che appunto sulla mappa. Si può fare direttamente riferimento a loro, a questi numeri, sia per dare sia per avere. Stavo preparando intanto le risposte che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi, infatti negli ultimi 2 giorni abbiamo realizzato questa intervista, sono alcune risposte brevi a diverse domande che adesso brevemente vi introduco, ma poi sono assolutamente esaustive le risposte, quindi ascoltiamole assieme. La prima cosa che abbiamo chiesto ai compagni e alle compagne del CPA è un'intervista a più voci, quindi durante questa intervista sentiremo più voci che si alternano. Nelle prossime settimane andremo sulle altre iniziative degli altri territori. La prima cosa che abbiamo loro chiesto è quando e perché hanno deciso di attivarsi, di mettersi in moto come brigata di sostegno alimentare, e anche come mai hanno deciso di attivare un sostegno gratuito come è di raccolta e distribuzione alimentare. Ascoltiamo la risposta. Diciamo che a febbraio, nel giro di pochi giorni, abbiamo visto prima la chiusura delle scuole, poi il primo DPCM, ma al di là di quello vedevamo salire, crescere contagi, ricoveri in terapia intensiva, decessi e via dicendo, e quindi in pochissimi giorni in un qualche modo ci siamo trovati a confrontarci in una realtà che come compagni e compagne, come militanti del centro popolare ci ha visto costretti a stravolgere completamente le nostre abitudini, non soltanto appunto quelle di vita, ma anche proprio come attivisti del centro popolare, quindi in un qualche modo non fare più l'assemblea, sospendere tutte le attività, laboratori, concerti, e quindi in un qualche modo ci siamo iniziati a confrontare su come potevamo continuare a essere protagonisti anche in quartiere della vita politica, sociale, quindi cercare di reinventarsi anche delle forme per poterlo fare. Nel frattempo, nel quartiere di Gavinana, l'associazione Fuori Mercato aveva iniziato a lanciare la proposta di fare le consegne della spesa a domicilio. E questo appunto in un qualche modo assecondava anche quelle che erano le richieste che venivano dalle corsie degli ospedali dove si diceva di rimanere a casa. E quindi assieme all'Associazione Fuori Mercato come centro popolare ci siamo iniziati a dedicare alle consegne a domicilio, incontrando anche fin da subito alcune contraddizioni nell'agire, perché per esempio dopo una prima lista di commercianti del quartiere che avevano aderito, abbiamo iniziato a ricevere le chiamate direttamente da Carrefour, Conad e via dicendo, e in un qualche modo ci siamo trovati anche a doverci confrontare con il fatto che la nostra attività veniva usata anche da chi in realtà avrebbe dovuto assumere lavoratori per fare consegne a domicilio, e anche quello lì è già stato un primo scoglio, un momento di dibattito che abbiamo avuto e che francamente a livello, diciamo, generale non abbiamo neanche sciolto, perché in un qualche modo, visto che questa attività poi travalicava anche gli ambienti militanti, c'era chi continuava a fare queste consegne nonostante le perplessità che venivano sollevate in merito proprio a questa questione. Detto questo, facendo queste consegne ci rendevamo conto appunto di svolgere un'attività che era importante, specialmente per le fasce più a rischio e le fasce più fragili, però in un qualche modo ci rendevamo conto che questo tipo di consegne abbracciava settori sociali diversi. Abbiamo iniziato a interrogarci in realtà su quello che stessero facendo i nostri, quindi le classi popolari, nelle case popolari, cosa stesse succedendo, e abbiamo iniziato a pensare che, visto l'avanzare di una crisi economica che comunque sia veniva già da una situazione di crisi strutturale pregressa, ci potesse essere la necessità di attivare una raccolta alimentare che riuscisse a portare da mangiare a casa a chi non aveva modo di pagarsi la spesa. Ed è così che abbiamo deciso in un qualche modo poi come CPA di iniziare a fare questo tipo di attività, e vale a dire la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà economica. E poi abbiamo chiesto loro come si è formato il gruppo, come si è formato questo gruppo che si è attivato in questo senso, da chi è composto, se da realtà, se da singoli, e anche come si organizza e direi come in generale funziona il tutto. Sentiamo. Certamente la proposta è venuta dall'assemblea del CPA, però chiaramente poi essendo un centro popolare la vita dello spazio non è semplicemente portata avanti dalle compagne e compagni che compongono l'assemblea, ma è portata avanti da tutta una serie di persone che frequentano il centro popolare attraverso le attività che ci sono, il cinema, i laboratori, la palestra e via dicendo. Quindi immediatamente la proposta si è estesa a questi ambiti e c'è stata una grossa risposta da parte della palestra popolare, specialmente dal giro della box, e diciamo che a breve si sono sentite coinvolte anche tante altre compagne e tanti altri compagni che comunque sia sono frequentatori, simpatizzanti del CPA, che si sono volute unire alle squadre di solidarietà e quindi iniziare a partecipare ai turni per la raccolta alimentare. Qui guardiamo e vediamo come abbiamo pensato di organizzarla, vale a dire 3 giorni la settimana. Noi teniamo il CPA aperto il martedì dalle 3 alle 6, il giovedì e il sabato dalle 10 alle 1. Questo è il punto di raccolta, ovvero il luogo dove tutte le persone che vogliono dare il loro contributo in termini di spesa oppure anche in termini economici, portandoci un'offerta, possono venire a lasciarla e trovano chi è impegnato a fare magazzino. E allo stesso tempo è il luogo da cui partono le staffette che portano la spesa a casa delle persone. Abbiamo un paio di numeri di centralino. Praticamente chi ha bisogno ci telefona, ci dice l'indirizzo, ci dice quanti sono in casa, quindi adulti, minori, se i minori sono bambini piccoli, quali sono le esigenze particolari. E noi provvediamo a consegnare un pacco che indicativamente dovrebbe coprire una settimana. Al termine di questa settimana, noi richiamiamo la famiglia in questione e chiediamo conferma se hanno bisogno dell'invio di un nuovo pacco. E chiaramente la risposta è sempre affermativa, perché queste sicuramente non sono situazioni e condizioni che si risolvono a breve, ma sicuramente assumono anche un aspetto strutturale. Questo sarà anche un ragionamento che dovremmo fare, perché chiaramente la crisi economica andrà avanti molto e molto di più di quanto non andranno avanti le misure di contenimento. E quindi consegniamo un nuovo pacco. E questo è il modo in cui siamo organizzati. Certamente nel frattempo ci siamo mossi in quartiere per allacciare rapporti con associazioni che ci hanno supportato. L'associazione Insieme per Gavinana ci ha messo a disposizione l'IBAN, l'Istituto Comprensivo Puccini, dal Consiglio d'Istituto addirittura ha fatto venire fuori una circolare dove informava su questa iniziativa e questa attività, dando tutti i riferimenti, e l'IBAN dell'associazione per fare donazioni. E con cui possiamo fare spese e possiamo appunto aumentare le scorte che abbiamo a magazzino. E poi abbiamo domandato che tipo di lavoro compiete e in quali zone, anche se l'ho un po' annunciato prima, e magari anche quali prime considerazioni potete fare alla luce delle attività che state svolgendo e in generale quale situazione state trovando di fronte a voi nel vostro lavoro quotidiano. Ascoltiamo. In questo momento una cosa di cui ci stiamo rendendo conto è che, passato un primo momento, diciamo anche di shock emozionale, in cui la solidarietà sembrava aver preso il sopravvento su tutto un altro tipo di atteggiamenti e comportamenti molto più individualisti, egoisti, e quindi vedevamo le scorte a magazzino crescere più di quanto non fosse il fabbisogno delle famiglie che avevamo in carico, e anche perché le famiglie stanno via via aumentando, abbiamo visto che stiamo andando incontro al problema che in realtà queste scorte potrebbero piano piano non bastare. Quindi abbiamo deciso di aggiungere alle modalità di raccolta un altro tipo di iniziativa, che è quello che abbiamo fatto per la prima volta oggi, il 2 maggio, di andare davanti alla Coop di Gavinana con un banchino per la raccolta alimentare. Molto semplicemente facciamo un volantinaggio e facciamo sapere alle persone che sono in coda per fare la spesa ciò di cui abbiamo bisogno, e siamo lì fuori con un gazebo e dei carrelli, e piano piano le persone che escono ci portano ciò di cui abbiamo bisogno. Facciamo la spola con il punto di raccolta CPA e quel e quei generi di prima necessità praticamente vengono distribuiti subito. Diciamo che oggi l'iniziativa è andata molto bene, e siamo riusciti a fare tutte le consegne che avevamo in programma per oggi e in un qualche modo abbiamo già coperto con le scorte di magazzino quello che riusciremo a fare per la settimana prossima. Quello che però vediamo è che comunque sia non possiamo essere in grado di capire e fare previsioni rispetto a come andrà per le settimane successive. In un qualche modo viviamo prolungando lo sguardo al massimo fino alle consegne del turno successivo, perché comunque sia le famiglie sono in costante aumento. E abbiamo anche notato che comunque sia, al di là dei volantinaggi e dei comunicati che mandiamo a giro per informare, c'è un passaparola, all'interno delle comunità di immigrati, c'è un passaparola tra persone che vivono nella stessa via, c'è un passaparola all'interno delle case popolari, e quindi quando ricevi una chiamata da una via, da un condominio, spesso succede che nelle ore successive ne ricevi altre tre che hanno addirittura lo stesso civico. Insomma, lo spaccato che abbiamo davanti è uno spaccato abbastanza preciso: tante famiglie di immigrati, tanti anziani, tante donne sole con figli, tanti lavoratori a nero che si sono visti dall'oggi al domani a casa senza più una fonte di reddito, e quindi insomma la situazione che abbiamo davanti insomma si delinea abbastanza chiaramente, e siamo sicuri che i numeri che oggi noi abbiamo davanti nella tabella che aggiorniamo costantemente, in cui mettiamo nomi, indirizzi, numeri di telefono per cercare di organizzarci al meglio, è uno spaccato che rappresenta una minima percentuale di quella che è realmente la situazione che c'è sul territorio, e non a caso appunto in costante aumento. E poi abbiamo domandato se si sono posti la questione dell'assistenzialismo, cioè se questa iniziativa è interpretata come vissuta come qualcosa di più del semplice, che comunque poi semplice non è, assistenzialismo, se magari una creazione di reti solidali, di mutuo aiuto, è quello che pensano che si possa invece originare da questi primi passi. Ascoltiamo la risposta, ascoltiamola con attenzione, perché sono parole molto chiare e dal mio punto di vista anche molto condivisibili. Fin dall'inizio, quando abbiamo deciso di trasformare quelle che erano le staffette che facevano sostanzialmente la consegna a domicilio della spesa in raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà economica, ci siamo posti il problema della questione assistenzialismo-solidarietà, e abbiamo notato che comunque sia è una contraddizione che ci possiamo portare dietro, ma è anche una contraddizione che dobbiamo essere in grado di sciogliere nella pratica. Cioè, allora, chiaramente bisogna sostanziare le due categorie per riuscire a comprendere il ragionamento che abbiamo fatto e quello che secondo noi è questa contraddizione. Cioè, in un qualche modo la carità è una categoria in cui ci sono aiuti che vengono dall'alto e vanno verso il basso. Sono aiuti che spesso arrivano per fidelizzare le persone a cui questi aiuti sono rivolti, e in un qualche modo tendono a mantenere intatti quelli che sono i rapporti che generano questo tipo di necessità, e quindi non mirano in un qualche modo a ribaltare questi rapporti, e soprattutto non mettono sullo stesso piano chi aiuta con chi è aiutato. La solidarietà è una categoria diversa, cioè una categoria diciamo tra virgolette più orizzontale, in cui chi aiuta si pone sullo stesso piano di chi è aiutato, perché sappiamo che sono delle condizioni particolari, ma che questo aiuto, che questa solidarietà, che questo mutuo soccorso in realtà non si limita soltanto alla questione delle necessità alimentari, ma in un qualche modo poi può essere altro, può essere solidarietà politica, sociale, può essere sostegno nel momento in cui avvengono delle lotte. E soprattutto noi cosa diciamo? Diciamo che assieme al pacco alimentare portiamo un messaggio. Ecco, questo messaggio deve essere un messaggio, secondo me, innanzitutto di dignità e di riscatto. E quello che dovremmo e cercheremo di fare per riuscire a sciogliere questa contraddizione in cui, ripeto, cioè, assumiamoci di esserci con i piedi dentro. Per sciogliere questa contraddizione, probabilmente dobbiamo agire perché coloro i quali oggi ricevono aiuto non rimangano dei soggetti passivi, che sono, diciamo, l'ultimo anello di una staffetta che parte da noi, che lanciamo un appello, passa per chi ci porta i generi alimentari di prima necessità e arriva a loro e lì si chiude. Ma deve creare una dialettica, una relazione circolare, per cui chi riceve questi alimenti a casa deve prendere anche coscienza e responsabilità della propria condizione materiale e in un qualche modo deve agire perché questa condizione non venga vissuta soltanto in termini soggettivi, ma inizi a relazionarsi con le condizioni di chi si trova nella stessa situazione. E quindi, in un qualche modo, l'obiettivo in prospettiva, è quello di riuscire a trasformare tutti questi contatti che fino a oggi comunque sia continuano ad essere contatti che per noi sono contatti che stanno tutti insieme, ma per le persone che noi aiutiamo sono contatti isolati, separati l'uno dall'altro perché in generale non si conoscono. Si conoscono per quelli che fanno il passaparola. Ecco, dobbiamo cercare di riuscire a metterli in relazione, dobbiamo fare in modo che abbiano un volto, che abbiano una voce e tutti insieme iniziare a pretendere quello che è giusto pretendere in una situazione come questa per portare avanti una vita dignitosa. E quindi noi diciamo che in questo momento probabilmente il passaggio e lo scalino che dobbiamo riuscire a fare è quello di trasformare questa situazione in una vertenza sociale che abbia un suo eco in città, perché non è accettabile che in questo momento tutto ciò rimanga silenziato e che si possa pensare che noi semplicemente andiamo a tappare dei buchi dove i responsabili di questa situazione in questo momento non riescono ad arrivare. Ed è proprio qui che quindi la nostra azione vuole fare in modo che i rapporti sociali, politici, di produzione che hanno generato questa situazione vengano perlomeno messi in discussione. E si sono aggiunti volontari nel corso del tempo? Quali altri contributi solidali state ricevendo? Come risponde il quartiere? Questo abbiamo chiesto e questo ci è stato risposto. Siamo una cinquantina di persone, tra militanti del CPA e abitanti del quartiere, che abbiamo dato la nostra disponibilità per questa iniziativa di solidarietà. E vista la risposta positiva da parte del quartiere, abbiamo iniziato a fare un banchino di raccolta anche davanti alla Coop, sia per dare maggiore visibilità all'iniziativa, sia per dare modo alle persone di contribuire senza fare troppi spostamenti, ma direttamente dove vanno a fare la spesa. I contributi che stiamo ricevendo sono sia in genere alimentari che contributi finanziari da parte di singoli e gruppi. Abbiamo l'appoggio di varie associazioni del quartiere e, come si può vedere dai post che pubblichiamo, c'è la possibilità di contribuire anche tramite un IBAN. Le fasce di popolazione, nuclei familiari piuttosto che singole persone che stanno richiedendo un aiuto e sostegno sono quelle che già erano deboli prima di questa crisi e che tendenzialmente sono esclusi dai sostegni istituzionali o nel caso in cui li abbiano ricevuti sono insufficienti a coprire i bisogni. Ora forse per la prossima volta cambio base, però intanto andiamo a concludere questa intervista, ovvero se la terz'ultima domanda che abbiamo fatto è se dalla loro esperienza si evidenzia una insufficienza degli enti, almeno teoricamente, insomma, preposti rispetto alle misure messe in atto da questi enti. Mamma mia, come l'ho ridetta male. Però magari mi sono fatto capire, ma sicuramente meglio della mia domanda si fa capire la risposta. Quello che stiamo vedendo, l'insufficienza degli enti preposti, statali, regionali o comunali, è evidente, lampante, sotto gli occhi di tutti, da una parte, dall'altra anche di quelle strutture assistenziali come la Caritas o la Ronda della Carità, la Croce Rossa, eccetera, altrettanto. Questo per dire che in diversi ci tengono quasi a dover giustificare la propria richiesta, spiegando come erano seguiti in qualche modo o dal comune o enti locali statali e o seguiti da strutture assistenziali che in questo momento non per motivi di sovraccarico, diciamo, non riescono a mantenere il servizio. Questo soprattutto per quanto riguarda persone che già si fornivano alle mense popolari o con buoni passi, eccetera, o addirittura appunto da consegne da enti come la Ronda delle Carità, eccetera. Molto spesso è evidente come le misure di sostegno del comune o dello Stato, vedi i buoni pasto forniti con il decreto e o con la revoca del reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno di questo tipo non bastano e o sono state tolte per mille motivi. Dunque, sì, è evidente come questo sistema acqua la pasta non riesce comunque a tappare i buchi di una crisi e di una situazione che le famiglie vivono, che è evidentemente strutturale e che l'emergenza coronavirus, con tutto quello che porta con sé, accelera in maniera grave e pesante. E poi abbiamo chiesto se volevano raccontarci qualche aneddoto, qualche racconto particolare. Interessante notare rispetto a quello che ci viene richiesto in base agli aneddoti, eccetera, che spesso ci chiedono chi siamo, no? Spesso l'emozione è tanta, ci dicono siete degli angeli e proviamo a spiegare che non siamo angeli, non siamo caduti dal cielo, ma che siamo una rete di soggetti, compagni e compagne, persone che si sono messe in rete e in qualche modo stanno provando nel loro piccolo a fare qualcosa. Il passaggio successivo ovviamente è quello di spiegare il nostro lavoro e il nostro intento. E beh, gli aneddoti ce ne sarebbero tanti, ma non voglio neanche in qualche modo renderli pubblici per non, così, come fare, quasi per una forma di rispetto verso chi incontriamo. E poi come ultima cosa abbiamo chiesto quella che forse è per noi, ora come ora, la domanda magari addirittura più importante di tutte, ovvero quali nuovi scenari vi figurate, quali prospettive possibili si aprono di fronte a questa nuova contingenza e alla luce di questo grande lavoro e di queste nuove relazioni con fasce di popolazioni che stanno più di altre subendo la crisi. Sentiamo la risposta. gli scenari futuri, beh, non siamo certo con la palla di vetro e il futuro è veramente quanto mai incerto, come forse poche volte nella nostra vita e attività politica abbiamo avuto davanti. Rispetto al lavoro che stiamo facendo, noi pensiamo che si debba innanzitutto seminare davvero la diffusione e la pratica della solidarietà concreta e del mutuo appoggio, cioè non è un servizio che eroghiamo, non è un'azione caritatevole, la solidarietà è qualcosa che si diffonde, si fiorisce, si semina e fiorisce e si spera che faccia un giro, no? Di andata e di ritorno. Dunque oggi in difficoltà sono io, domani potresti essere tu e se si capisce che davvero in qualche modo ci si può mettere in relazione e affrontare insieme i problemi e che insieme siamo più forti. Questa cosa possa davvero essere uno scatto importante. Sicuramente toccare con mano soggetti, fasce di popolazione che con le nostre attività politiche, ahi noi, oserei dire classiche, non raggiungiamo troppo spesso. È una sfida troppo importante da poter perdere o da ridurre appunto al mero assistenzialismo dal quale vogliamo in qualche modo non cadere. Quello che pensiamo è che sia necessario poi andare a puntare il dito contro i responsabili, puntare il dito contro chi ci fa condurre una vita del genere, pensare che questo sia normale, non lo è. Pensare che questo sia frutto di un'ingiustizia al quale non poter far fronte non lo è. Pensiamo che si debba andare a bussare le porte di chi appunto tiene in piedi questo sistema e ci dice che è l'unico possibile e poi far ricadere appunto su l'assistenzialismo per poter campare e potersi salvare o addirittura appunto sulle attività delle forze popolari auto-organizzate, autogestite come quelle a cui state dando voce. Noi pensiamo che lo scatto debba essere appunto unirsi, organizzarsi per andare a bussare alle porte giuste e pretendere quello che ci spetta. È un passaggio che andrà necessariamente affrontato bene. Diverse persone che incontriamo appunto sono persone che vivono anche in strutture come case di assistenza o appunto erano seguiti da servizi sociali, comunali, eccetera. Anche rispetto a quella che è le politiche assistenziali, dobbiamo dire che non sono sufficienti, che non bastano, che non possono andare avanti così, e poi appunto andare a bussare alle porte di chi i soldi li ha e in questo sistema probabilmente con questa crisi tenterà di tenerseli belli stretti quando appunto la stragrande maggioranza della popolazione sta letteralmente iniziando a soffrire la fame. E sarà una sfida importante, la dovremo affrontare tutte e tutti al meglio, probabilmente servirà anche per mettersi in rete rispetto a ciò. E niente, dovremo necessariamente tenerci aggiornati, aggiornate. Ed eccoci, si conclude qui la nostra intervista, ma anche la nostra puntata. Intanto ringraziamo tantissimo i compagni e le compagne del CPA per queste risposte. Era la prima di una serie di rubriche, anzi direi di approfondimenti che vorremmo svolgere una settimana o anche forse più di una settimana, ora vediamo, nelle prossime puntate, andando a fondo delle molte iniziative di solidarietà e di sostegno alimentare che si stanno svolgendo in questi giorni nella città di Firenze e non solo. Quindi l'appuntamento su questo è sicuramente alla prossima settimana, a meno che non ci saranno stravolgimenti del palinsesto, dei quali comunque vi daremo conto sul sito della radio. Infatti da stasera sarà online il nuovo palinsesto per la settimana a venire. Lo si trova sulla home della radio, wombat.noblogs.org. Noi continueremo comunque, forse con forme modificate rispetto alla programmazione che abbiamo visto fino ad ora, quella della puntata in diretta tutte le sere alle 19, ma comunque andremo avanti come sempre con la radio. Vedremo quali saranno le puntate, quali saranno le trasmissioni che troveranno vita, forma, ancora con le regie casalinghe o magari riaprendo le diverse regie fisiche, insomma, che abbiamo qua e là nella città. Il Wombat ha molte tane. A me non resta che ringraziare tantissimo tutti gli ascoltatori di oggi, tutte le persone che hanno contribuito con i loro commenti e partecipazioni via messaggio sul pad, mandando dei messaggi alla mail postawombat@insiberia.net. Adoperatela tranquillamente anche per i prossimi giorni, insomma, tanto ormai gli indirizzi li sapete. Che altro dire? Cosa mi resta da dire? Niente, che il maestro Ottani e Antonio Probo è assolutamente probabile, visto anche il successone che abbiamo avuto oggi con questa puntata, che troveranno ancora voce in diretta assieme a me nelle prossime trasmissioni. Per la mappa invece della rete di solidarietà di cui abbiamo parlato poc'anzi, rimando al sito lapolveriera.noblogs.org, è una mappa realizzata su OpenStreetMap e comunque tuttora in aggiornamento. A me non resta che salutarvi, dirvi di rimanere in contatto con noi, perché subito dopo di me andrà in onda la replica della puntata di venerdì scorso di Uru, voci, suoni e notizie dal continente africano, e poi a seguire le letture di Quasi Mezzanotte, i racconti di Quasi Mezzanotte. Cosa c'è stasera? Vado a vedere. Alle 23.30 The Sandman, Cacciatori di Sogni, capitoli 3 e 4 di Neil Gaiman e Yoshitaka Amano. Restate in contatto, che la programmazione del Wombat è sempre ricchissima. Io vi saluto dopo questa lunghissima diretta, è una sfida a farne a qualcuno di più lunghe, voglio vedere se ci riuscite. Buona serata, viva Radio Wombat, alla prossima. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.